È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Matti, siamo tutti matti, urliamo, ci insultiamo da nevrosi, siamo affetti, spariamo dei sorrisi, degli alibi perfetti, colletti inamidati dai trascorsi assai sospetti, siamo tutti matti, fuori ogni misura. Prima punturina della serata, caro Parenzo. Prima punturina, bisognerebbe darla. Non la sento, non la sento. No, dove sei? No, oggi la sento bene perché qui accanto a me. Prima punturina della serata, caro Parenzo, bisognerebbe darla. Non punturina, forse anche un una. Un clistele, no? No, qualcosa di più. Forse sì, anche una botta in testa, direi. Una corcata di botte, come si dice in gergo romano, dato che siamo a Roma. A un signore che è un dirigente del PDL che si chiama Antonio Piazza, ex presidente dell'ALER, sì. Le case popolari, certo, il quale certo. Ha squarciato la ruota di un disabile per mettere la sua Jaguar. Questo disabile ha protestato, si è arrivati anche a questo. Siccome il disabile ha protestato, lui ha preso un coltello e ha squarciato, la ruota. È la politica al servizio del cittadino, mi sembra giusto. Intanto la Biancofiore, la mitica White Flower, la White Flyer. Che ha combinato stavolta la signora Biancofiore? Berlusconi, Homo novus della politica italiana, e tutti si misero a ridere. Mi creda, non c'è cena, non c'è situazione in cui lui va in pubblico dove la gente non fa la fila per farsi le fotografie con lui, non l'abbraccia. Chiaro. Più che un politico è veramente un fenomeno mediatico. E questo che cosa significa? Che ancora una volta Berlusconi è l'homo novus della politica italiana. Ma si può commentare una cosa di questo tipo? Ma è che lei tipo? È seria, la cosa drammatica. Ma non è il 94, bisognerebbe ricordare. Sì, no, una cosa è incredibile. Cioè, è il 2012, sì. Sono passati quanti anni? Sono passati? 18. Ma lo so, io ero in quarta ginnasio probabilmente. 18 anni. Sì. Poi dice anche, mi risulta una cena in cui Mubarak parlava di una ragazza col profilo di Ruby. Cioè insiste su questa cosa, la nipote di Mubarak. Matti, aiutami matti, tu, ti prego, aiutami tu. Biancofiore. L'ha creduto, perché se uno ti racconta una cosa che magari tu non puoi verificare al momento che sia vero, ma mi risulta ci fosse una cena dove Mubarak effettivamente parlava di una ragazza che aveva il profilo di Ruby, insomma, come si chiama questa ragazza che io non conosco. Va bene, abbiamo già un grande ospite tutto collegato. Tutto finito, vorrei dedicare questa puntata, caro Cruciani, a Marcello Di Finizio, l'imprenditore salito martedì sera sul tetto della Basilica in Vaticano. Ma perché? Pronto a rischiare la vita, vuole incontrare solo il Premier Monti. A te, caro amico, dedichiamo questa puntata, a te e a tutti coloro che lottano per il lavoro in questo paese. Bah, la dedichi tu questa puntata a lui, a me non me ne può fregare di meno. Allora, Sgarbi, show contro Vendola. Cari genitori che siete all'ascolto della Zanzara, tappate le orecchie a vostro figlio, fermate la macchina, buttatelo fuori sul grande raccordo anulare e alzate la radio a tutto volume. Bersani si è capito un anno e mezzo fa, quello che era, quando in televisione gli hanno chiesto: ma com'è la situazione? Beh, guardate, il problema è la bussola. L'assenza della bussola rende difficile l'orientamento senza bussola. La fotografia di Bersani, questo qua ha perso la bussola e ormai gira come un disperato. Poi gli si è messo pure di dietro un inculatore proprio professionale che è Vendola, ed è quello, è fatto, se lui è finita. No, Vittorio, no, Vittorio, non ti beccare una querela, ce la siamo beccata anche noi una querela al signor Vendola, sì. Ah, è già che siamo indagati. No, io, non tu, poi non so perché. No, anch'io sono indagato, anch'io con lei. No, ma non Vendola, non su Vendola. E su quale siamo indagati? Io, Vendola, no, diciamolo a chi ci ascolta, siamo indagati. No, Vendola, mi ha querelato per una storia che riguarda Emilio Fede, ma solo me, ma non capisco perché. Vabbè, no, cioè, io sono d'accordo, vengo a testimoniare. Ma sei d'accordo? No, vengo a testimoniare, sei pazzo. Ha ragione Vendola. Senti, però, prima di quest'ospite, voglio farvi ascoltare. Ma non c'è nessuno in studio. No, ma è collegato con noi dall'Inghilterra. Montezemolo. Io oggi non ho capito niente di questo discorso di Montezemolo, che ha detto basta One Man Show, non mi candido, poi ha detto il centro non è un fatto statico. Sembra un po' Battiato, no? Sembra Vendola questo, no, il centro di gravità permanente. Montezemolo, che stai a dire? Il centro, per me il centro non è un fatto statico, il centro è una centralità rispetto ai problemi del paese. Siamo entrati nella storia. Chiaro, mi sembra molto, mi sembra molto chiaro. Chiaro. È con noi Flavio Briatore, buonasera. Finalmente, ragazzi. Finalmente un uomo veramente ricco, evviva, evviva. Non aspettavo altro. Come sta? Ma qua io l'ultima volta che l'ho vista proprio l'ho voluta toccare, perché a me gli uomini poi ricchi piacciono. No, ma chi l'ha voluto toccare? Sì, ma quando l'hai visto? Sono andato a trovarlo al Billionaire in Sardegna per la Sette in ma onda quando? Quest'estate. Come stai? Molto bene, caro, grazie. E io, veramente un uomo si è fatto da solo ricco, mi piace, è ricco, sono felice perché è ricco. Senta, Briatore, qual è la cosa più lussuosa che ha fatto nella sua vita? Qual è la cosa più lussuosa, sì, che lei si è concesso nella vita? Che sì, non so, sarà la cosa proprio una cosa un che bicchiere d'acqua. Per cui anche magari si vergogna un po', no, oggi, no? Dormire 18 ore. Vabbè, adesso così. E beh, è da ricchi, però. È da ricchi. Perché è da ricchi? Perché da ricchi? Dormire 18 ore è da ricchi. Cioè, uno è ricco, dice, che cazzo me ne frega, oggi dormo 18 ore. No, pure anche un imprenditore che può fare comodo suo, cioè che non ha orari, non è che bisogna essere forza. Meraviglioso. Anche quelli che non hanno niente da fare, che sono poveri. Quelli che fanno un cazzo anche quelli, sia vero. Dormono 18 ore, scusa. E l'errore più clamoroso che lei ha fatto nella sua vita qual è stato? Quella di svegliarmi. Vabbè, dai, su, però adesso, cioè, non mi sia così democristiano. Cioè, l'errore più clamoroso, cioè, dice una cazzata che ha fatto nella vita. Un errore, che ancora non se la... Cazzate le facciamo tutti i giorni, per cui non me le ricordo tutte. Perché ne ha fatte tante, dice lei. Certo. Tante. Senta, ma secondo lei un paese guidato da Bersani e Vendola, sì, no? Casini ha detto che inorridirebbe, che paese sarebbe? Ma io credo che, che fa ridere, no? Perché parliamo ancora, parliamo sempre delle stesse persone da 20 anni, per cui fanno un po' ridere tutti, credo che a questo punto qui... Sì. Lei è un rottamatore anche lei? Perché, no, io dico solo che visto che siamo arrivati a questo punto qui e visto chi ci ha portato sono sempre gli stessi, non riesco a capire come potremmo fare meglio con le stesse persone, cioè non riesco a capire. Ma questo gliel'ha detto a Berlusconi quando è stato da lei in Kenya? Berlusconi è un amico di politica con Berlusconi. Ma è possibile che è stato tanti giorni in Kenya da lei, non avete mai parlato di politica? Qualcosa non vi sarete detto. Qualcosetta sarà uscita fuori. Ragazzi, l'avete detto prima, dai. Questi qui adesso... Sono finiti. No, ci dicono, ma scusa, che fiducia dobbiamo avere di questo gruppo politico che ci ha portato in queste situazioni? Dunque non bisogna avere fiducia nemmeno in Berlusconi, per esempio. Io parlo di politica in generale. Politici. È suo amico, gli dia un consiglio. Già l'ha fatto una volta. In questi giorni in Kenya, a parte che l'ho visto in grande forma, che cosa ha fatto? Che servizi ha offerto al signor Berlusconi in Kenya, in questo resort? Si è riposato, è stato molto bene. Credo che si è visto, no, fisicamente. Sì. Il presidente sta benissimo. Ma gli piacciono ancora le donne o no? Ha chiuso con l'azienda, diciamo? Credo che le aziende sono sempre aperte. No, dico quell'azienda lì. Diciamo l'azienda. Esatto, l'azienda. Puoi ridurre l'orario. Comunque le donne credo che siano sempre. Beh, certo, se uno piace, se uno piacciono le donne. Perché a voi non piacciono? A me moltissimo. No, guarda. Io ho smesso. Vabbè, sì, smesso giovane. Ma non è vero, fa finta. Ma è vero Poi leggo su di voi che siete dei birichini. Signor Cruciani. Sì, io sono una monachella. Il signor Cruciani, signor Cruciani possiamo dire molte cose, effettivamente, signor Briatore. Sottoscritto, no. Che leggi? Che ha letto? Cosa ha letto, signor Briatore? Ma non è vero, non ha letto nulla. Non è vero. Ha fatto qualche così da cospia queste cose qua, ma chi ci crede a queste cose? Vabbè. Scusi, ma no, Berlusconi non era con la fidanzata, con la signora Pascale? No, non era con la fidanzata. Era da solo. Col maggiordomo, però. Nessun maggiordomo. E che voglio capire questo? Non c'era bisogno. A me hanno spiegato questo, forse il signor Briatore ci può aiutare. Che ogni volta che il presidente Berlusconi si muove c'è comunque sempre il maggiordomo, che è quello anche che gli sceglie i vestiti, le scarpe la mattina, meraviglioso. Ma sai, c'è poco da scegliere, appunto, t-shirt, via così. Ah, beh, sì, con le tigri e i leoni, sì, è vero. No, ma che tigri e leoni? Non lo so, in Kenya sarà qualche tigre. Scusi, però, nelle poche volte che avete parlato di politica in Kenya, le avrà detto io sono stufo di questo PDL, di questi dinosauri, di questa gente che mi rompe i coglioni dalla mattina alla sera con tutte le stupidaggini possibili, immaginabili, i posti di qui e poi i Fiorito di là, e no, cioè i Batman di qui e i Superman dall'altra parte. Cioè, le avrà detto che... vedi, è tutto un fumetto, no? Abbiamo il Batman, abbiamo il Fiorito, abbiamo... è tutto un fumetto, è tutto un po' una barzelletta quella che vediamo in Italia. E come se ne esce? Lei che... Cioè, come si cambia la classe dirigente, Briatore? Come si cambia? Lei, per esempio, perché non si candida lei? Perché in politica non puoi incidere, perché la politica è una cosa che proprio per quello la chiamano la politica, perché non decide mai, no? E un imprenditore deve decidere. Magari un imprenditore una notte guarda il soffitto e al mattino prende le decisioni. In politica non è così. Però la smetta di fare questo. Una volta finito questo reality che sta facendo su Cielo. Sì, su Cielo. A noi, tra l'altro, l'altro giorno ci è arrivata una telefonata anonima in cui addirittura ci hanno rivelato il vincitore. Vabbè, ma lasciamo perdere questo argomento. No, comunque è sbagliata, perché dobbiamo ancora registrare le ultime due puntate. Per cui non era vera. Ma una bava. Secondo lei quanto potrebbe valere la lista billionaire? Cioè, se no, ci fosse... Briatore, che billionaire? No, billionaire, Briatore per i billionaire. Cioè, è un brand che potrebbe valere nel mercato elettorale dei simboli, o no? O no? Non ho mai pensato senza giocarci troppo, insomma, ma potrebbe avere un 3%, un 6%, potrebbe valere la lista billionaire. Ma visto a parte la lista billionaire, visto la lista Briatore, visto quello che c'è in giro? Allora, visto che quello che c'è in giro, non penso che una lista Briatore sfigurerebbe. Ah, ecco questo, ecco, è questo buono. Questa è la questione. No, non sfigurerebbe, poi lei non la farà mai. Non la farà mai. Perché pazzo, chi metterebbe in questa lista? Se dovessimo continuare in questo reality della Zanzara, la persona che metterebbe The Apprentice. Chi metterebbe lei in questa lista fantomatica che mai si farà Briatore? Vedi, io credo che... Lascia perdere la lista Briatore. Io credo che in questo momento... Sì. Noi dessimo uno stipendio a tutti quanti, no? I politici, ma no, come lo stipendio, i politici secondo me dovrebbero essere 200, non 1000, però gli 800 che non hanno più lavoro, gli diamo uno stipendio del 50% per andarsene, dice lei? No, a condizione che non usino la macchina, non usino la segretaria, non usino l'ufficio. E poi io sono convinto la metà dovrebbero essere messi così a riposo per non fare nulla, tanto non servono. No, bisogna pagarli, perché poi la gente non può, quando dici levo le province, poi la gente la devi pagare, no? La paghi a condizione che non faccia niente, a condizione che non usi il telefono, che non abbia la macchina blu. E che fanno tutto il giorno? Ma vogliamo sentire questo signore, questo Antonio Piazza, ex presidente dell'Aler di Lecco, dirigente del PDL locale, il quale ha squarciato una ruota a un disabile perché si è permesso di protestare, perché lui aveva messo la Jaguar in un posto riservato. La Jaguar non del disabile, Jaguar sua del presidente dell'Aler. Stavo spiegando benissimo, però sottolineiamolo, diciamo. Piazza. C'è gente che ha fatto peggio di me. Anche nel suo partito? Io non so giudicare, c'è gente in generale che è peggio di me e sta fuori, resta tutto. Sono da 3 anni che parcheggio sul divieto. La mia preoccupazione non è stata perché avevo parcheggiato, avevo invaso la corsia del disabile, ma perché, vedi che qua c'è un divieto. Pensavo questo, a quello là. A tutte le ha fatte? Cioè, non pensavo a quello. Ma lei le ha fatte tutte, le ha messa praticamente in divieto. C'è sempre parcheggiato, 3 anni che parcheggiavo. In divieto? In divieto, ma quello è il problema. Ma non si fa! Ma a parte che non c'è il divieto, non si fa. Un errore tecnico di incazzatura, così lo chiama. Ho fatto questo errore tecnico di incazzatura. Ha un errore tecnico. Di incazzatura, che capita. Ma se dovessi vedere. Piazza, amico mio. Vabbè, lasciamo perdere. Ha fatto una cosa talmente forte che non è nemmeno... Cioè, che puoi fare davanti a... Doveva almeno chiedere scusa, ma non mi pare che l'abbia fatto. No, per adesso non ha chiesto la parola scusa. No. Una parola semplice, scusa. Ora, la dieta... scusi, Briatore, la cosa che ha seguito Berlusconi, pare, insieme a lei, al Lion in the Sun. Ore 7 sveglia, 7.30, 9.30 camminata sulla spiaggia a passo veloce. 9.30 colazione a base di frutta. Sì. 10.13 trattamenti nella spa. 13.30... che trattamenti nella spa, bisognerebbe capire. 13.30 pranzo, leggero naturalmente, 14.15 riposo, 15.17 camminate in spiaggia oppure escursioni, 17.30-20 trattamento presso la spa, 20.30 cena, 22 tisane. Ma ha pagato Berlusconi, è tutto gratis? Berlusconi paga sempre, è molto generoso. Ah, cioè no, lei non l'ha ospita, pensavo l'avesse ospitato pure lei, periodo che fa, paga Berlusconi? È un business quello, no? Eh beh, certo. Vabbè, ho capito, però. E quanto ha speso Berlusca per questa settimanella? Si può dire oppure privacy? Tutta privacy, poi se io ospito un amico. Appunto. Gli fa lo sconto. Ma anche a voi vi faccio lo sconto, rompiballe se volete venire giù. Beh, noi non ce lo possiamo permettere, scusi. Prima noi vorremmo solo la tisana. Ma qua c'è, cioè, una settimana quanto vi costa? Una settimana tipo, quanto ci costa con lo sconto? Una settimana tipo credo sui 3.000-3.200 euro. In due, 1.500 a testa, perfetto. No, a persona. Ah, 3.000 giù, ma 3.000. No, 3.000. Se dormite voi due nella stessa camera vi faccio lo sconto. Beh, no, questo preferirei di no, ce l'abbiamo già fatto qualche volta. Sì, è accaduto più volte, però io preferirei di no. Comunque non è tantissimo effettivamente. No, se poi ti danno anche la tisana alla fine della serata. No, ma poi in generale. Poi pare che sia Berlusconi sia appassionato alla cultura Masai, così titolano i giornali. Vabbè, ma comunque insomma. Ma senta, Beriatore, io volevo capire questo, deve essere veramente sincero. Ma il Montezemolo può essere il futuro dell'Italia, secondo lei, signor Montezemolo? Io da amico ci consigliamo tutti di entrare in politica, perché poi anche Luca non è più un ragazzino. Quindi non faccia il coniglio, insomma. No, di non fare politica. Io sono convinto che la politica è una professione. La cosa che è la cosa veramente incredibile è che vediamo che negli ultimi 40 anni sono sempre gli stessi e parlano di rinnovamento, parlano di... Questo che non che per un cittadino normale è difficile, non riusciamo a comprendere. Ma quindi lei per chi voterebbe oggi, ad esempio? Appunto, questo è il dramma vero. Per Renzi, assolutamente no. Per nessuno. No, in questo momento qui non c'è nessuno che... Prima di tutto io sono convinto che un cittadino deve votare chi lo rappresenta. Grillo, perché non Grillo? Perché no, Grillo no. No, in questo momento qui sembra che in Italia non si voti più, no? Perché parliamo di Monti bis. Ma lei come lo vede il Monti bis? No, ma la cosa straordinaria è che nessuno vuole passare al voto, vogliono essere tutti lì per grazia ricevuta. Questo è vero. Dunque lei è contrario a Monti bis, mi sembra di capire. No, io sono contrario, se Monti si presenta e la gente lo vota, io sono contento, ma non credo che bisogna sempre tirare il jolly dal mazzo. No? Bisogna passare dal voto, giustamente, bisogna passare. Io credo che sia una... Senta, per concludere, lunga vita innanzitutto a questo reality su Sky, sempre, Apprentice, sempre. Lunghissima vita, anche se finisce tra poco. Sei divertito a farlo, sì. Vorrei un altro figlio, ma non è semplice. Che vuol dire vorrei un altro figlio, ma non è semplice? Scusi, ma Briatore, adesso parliamoci chiaro. Non è difficilissimo farlo, diciamo. O no? Assolutamente non è difficile. Anche divertente, se ricordo bene. Anche divertente. Io mi ricordo bene, è divertente, però non è che succeda sempre. Ci sono vari fattori, dice lei, no? Esatto, ragazzi. Ci stiamo provando, sì? Sì. Noi siamo sempre con le domande. Noi siamo sempre un po' curiosi di quello che avviene sotto le lenzuola, diciamo. Però uno può anche non rispondere, dire sono cazzi miei, fatevi gli affari vostri. Cioè, può anche utilizzare questo tipo. Hai risposto esattamente. Ho risposto. Bravo Apprentice. Perché Parenzo è sempre curioso di una cosa. Chiede sempre, ma quante volte a settimana lei fa l'amore? Sì, no, ma sono i sondaggi, come quelli che fa il signor Mannheimer. Sono i nostri sondaggi. Facciamo un sondaggio, dai. Ecco, quante volte lei, signor Briatore, fa l'amore? Un sondaggio, non lo so. Quando? Tre volte a settimana, una volta a settimana basta. Quante volte? Non si può dire, ragazzi. Fate gli affari vostri. quante volte, Briatore, su? Ragazzi, fatevi gli affari. A presto. Buon lavoro. Saluto. Ciao a tutti. Ciao. Giornale Radio, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24. Abbiamo appena iniziato. Città intelligenti. Le parole di Siemens. Ben ritrovati. Il tema di oggi è quello degli ospedali e della tecnologia. Sentiamo Emilio Gianni, responsabile settore healthcare di Siemens Italia. Oltre la metà della popolazione mondiale vive già nelle aree urbane. Entro il 2050 questa percentuale aumenterà fino a raggiungere il 70%. Questo sviluppo straordinario pone nuove sfide e suscita ulteriori speranze, anche in termini di qualità della vita. Per questo è importante che tutto il percorso di cura ruoti intorno al paziente. Siemens, grazie alle proprie soluzioni IT, permette alle strutture sanitarie di massimizzare l'efficienza dei propri processi e velocizzare i percorsi decisionali. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è, pure lo distrai, a di zanzara mi son messo il pie, ma lei intanto all'interno del Partito Democratico stanno cercando di fregare il signor Renzi, lo stanno cercando di fregare con le regole delle primarie, un argomento molto molto noioso, diciamolo subito, ne parlano tutti per gli ascoltatori della Zanzara, perché hanno messo l'albo degli elettori, una cosa complicatissima per registrarsi 3 settimane prima del voto, e anche il ballottaggio, cosa che non c'era prima, cioè il candidato alla premiership a guidare il governo per il centro-sinistra sarà scelto con un ballottaggio, non al primo turno, ma ci sono 2 turni. Vabbè, ma ci vogliono delle regole, ci vogliono, no? Regole, ci anche sono negli già. Stati Uniti uno si deve iscrivere nelle liste per andare a votare, non è tutto non Zanzara, pronto, che abbiamo in linea, ma non è tutto così, ci sono regole da rispettare. Bene, cose. Hai detto la stronzata della serata, ecco. Perché non hai capito quello che dicevo io, titoli del TG3, su. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Fondi neri alla San Raffaele, condannato a 10 anni di reclusione per Angelo Daccò, l'uomo d'affari indagato con Formigoni in un'altra inchiesta. Verrà interrogato domani Franco Fiorito, da ieri nel carcere di Regina Coeli, intanto si cercano eventuali complici e si indaga su bonifici sospetti. La Corte dei Conti, Italia primi posti nel mondo per evasione fiscale, in nero oltre la metà di falegnami idraulici, tra i professionisti maglia nera agli avvocati. Il governo conferma presto norme sulla non candidabilità dei condannati in via definitiva, domani in commissione l'anticorruzione, in aula per il voto il 10 ottobre. Giornata di frenetici incontri nel PDL, ma l'umore degli ex AN, il rischio scissione, stasera vertice con Berlusconi e Tremonti presenta una sua lista. Bersani boccia un governo Monti bis, vogliamo un paese normale, Veltroni, il professore è una risorsa per il paese, primarie e no di Renzi alle nuove regole. Scoppio nel reparto rifiuti ferrosi dell'Ilva di Taranto, uno di quelli sequestrati dalla magistratura, ustionato un operaio di 34 anni. Buon compagno alla Zanzara, qualche giorno fa contro la Santanchè, sentitelo. No, Santanchè io la brucierei viva, in Piazza della Signoria. La risposta di Daniela Santanchè, anche Giovanna d'Arco fu bruciata in piazza. Ma io guardi, sono in buona compagnia perché Giovanna d'Arco è stata bruciata e quindi voglio dire la cosa non mi preoccupa. Buon compagni. L'ha presa bene. È ignorante. Mi darebbe spontaneo dire che l'ignorante è lui. Prima su una questione di numeri, proprio di mancanza. Le minacce nemmeno troppo velate dell'avvocato Carlo Taormina. No, ma perché caro parli Parezzo? Di minacce? Strategia processuale. L'ha detto processuale. Lui esplicitamente anche ieri, il legale di Francone Fiorito, che ha detto i vertici del PDL stiano attenti. Molto attenti, abbiamo le gherte. L'ha detto anche questa abbiamo mattina, l'ha ripetuto questa mattina ad Agorà. Ovunque l'ha ripetuto oggi, ad Agorà. Ieri da noi aveva detto, beh, se l'hanno scaricato lui potrebbe scaricare anche gli altri. E chi certo. Scarica potrebbe essere scaricato. Ma non c'è dubbio. Taormina, quando uno è scaricato poi scarica. Dal PDL lo hanno scaricato tutti, avvocato, diciamo la verità. Cioè. Ma poi bisogna vedere che succede, perché sai, quando uno è scaricato poi scarica. Che c'avete carte? Avete carte? Ma io non lo so se c'ha le carte, dico però che quando uno è scaricato, chi scarica deve essere molto... deve riflettere bene su quello che fa, perché certamente Fiorito non era un personaggio, non è un personaggio qualsiasi, non è un personaggio indifferente. Ma vogliamo risentire lo sgarbi che dà a Vendola dell'inculatore professionale a Firenze? Ce l'hanno segnalato. Ma è una cosa gravissima. Alcuni amici di Firenze. È una cosa molto grave quella che ha detto Sgarbi. Sì, non di grandissimo gusto, effettivamente. Però devo dire la verità, è Sgarbi, È Sgarbi. E ho capito, non è che Sgarbi. Ma non è che c'è un salvacondotto che può dire qualsiasi cosa gli passa per l'anticamera del cervello. Scusa, ma che discorso è? Mamme, genitori che siete in macchina con i bambini senza buttarli fuori dal finestrino sul raccordo anulare o sulla tangenziale di Milano. O in tutti i luoghi d'Italia dove ascoltate numerosissimi la Zanzara, prendete il vostro bambino, legatelo sul tetto della macchina con delle corde e poi a 130 all'ora con la radio a palla godetevi questo Vittorio Sgarbi. Bersani si è capito un anno e mezzo fa quello che era, quando in televisione gli hanno chiesto ma com'è la situazione. Beh, guardate, il problema è la bussola, l'assenza della bussola rende difficile l'orientamento senza bussola. La fotografia di Bersani, ora questo qua ha perso la bussola e ormai gira come un disperato. Poi gli si è messo pure di dietro un inculatore proprio professionale che è Vendola, ed è quello è fatto, cioè lui è finita. È finita proprio. Ma è malato proprio con finita. Queste cose di sesso, un inculatore è professionale. È proprio, adesso, è proprio finita. Roberto D'Agostino, Berlusconi deve stare in Parlamento a fare lo scemo per salvare le sue aziende. Sentiamo. Pur essendo straricco, quello che volete, insomma, permettere di andarsene a divertire, che so, alle Barbados. Ne sta in Parlamento a fare lo scemo perché c'ha queste aziende che deve salvare. E c'è una parte di verità nelle cose che dice il signor D'Agostino. Sì, beh, sì, ci sì, vogliamo sì, gustare sì, un Fini versus Formigoni, Maurizio Crozza. No, Crozza? Forse un Crozzino. Boh. Un Crozza, che dici? Cari ascoltatori, dateci anche voi un consiglio. Crozza, volete Crozza? E mettiamo Crozza su. Crozza su Formigoni, dai. Crozza su Formigoni. Crozza su Formigoni non c'è, va bene, Crozza su Formigoni non c'è, allora facciamo Fini versus Formigoni, difendi l'indifendibile, Bossi e Minetti nella tua giunta, quello che volete. Renzo Bossi, lasciamo stare a un'altra cosa, voglio dire, no, ho capito, signori, aveva usato semmai, se il giudice lo dimostrerà, soldi della Lega, del partito della Lega. Quindi lei non sta parlando soldi, dei soldi della fondi giunta. Regionali. Beh, certo. Della giunta, sono quindi. Sono del Consiglio. Non della Lega, sì, sono dei cittadini. Però, allora, non qui. Puoi difendere io, l'indifendibile. No, su, mi, dai, fini, difendi fini, no. L'indifendibile. Ma, fini, dai. Le responsabilità calmo, sono personali. Hai appena finito di dire che sei calmo. Sono calmo. A un certo punto dice, dopo ti arriva una telefonata di Berlusconi. Andiamo. Stai tranquillo che dopo ti chiama Berlusconi e dice come sei stato bravo, hai dato la colpa ai comunisti. Fini, ti sei limitato. Forse questo lo faceva con adesso te. Adesso voglio tornare. Forse questo lo faceva con te. L'ossessione di Fini e Berlusconi. Se non beh, ci fosse però, Berlusconi non saprebbe di cosa però, parlare. Nel merito non hai delle ma, cose ma, sbagliate. Ma che Berlusconi chiama Formigoni per dirgli quanto sei stato bravo. Su, ma argomenta, dai, su. Basta con queste cose. Ma poi messo alle corde, bisogna dirlo, dal signor Moulet, messo alle corde. Dal direttore, Moulet. Sentiamo, spettacolo di Fini triste, fra poco estrema unzione, lui sarà ancora lì perché Fini è in Parlamento da un po' di annucci. Subito, ok. Che se fosse stata approvata quella norma anticorruzione, che il PDL direttore lo scriva, Panorama, lo scriva Panorama, ma che lei il PDL non lo legge, blocca quindi il Senato. Se non lo leggesse l'avrebbe non ho capito detto, guardi. Ha detto è inutile che lo scriva, tanto lei non lo legge. No, ma lo leggono gli altri lettori. No, non lo leggono i suoi, guardi, quelli fanno solo querele, guardi. Hanno il suo stesso stile. No, i suoi colleghi di partito. Questo era un altro, ma a un certo punto Moulet dice spettacolo di Fini triste. Lo spettacolo a cui ho assistito sinceramente è molto triste. È triste perché il presidente Fini è il presidente della Camera, 30 anni di esperienza, 8 mandati sul groppone, insomma io avevo ancora, come dire, 14 anni, 13 anni quando divenne deputato, avevo molti capelli, adesso ce l'ho quasi bianca, avevo fatto la prima comunione, fra un po' ci manca poco e mi prendo l'estremunzione e lui sarà ancora lì. Insomma, può dirci qualcosa di nuovo, può fare qualcosa di nuovo, di discontinuo. Eccoci, 800 24 00 24. Patrizia da Vicenza, buonasera. Buonasera, volevo proprio portare la sua attenzione all'apertura del suo programma. E quando il Parenzo, in un attimo di lucidità, ha detto che dedicava la trasmissione. Un attimo di lucidità, una costante lucidità. Comunque, vabbè, allora non ci fermiamo su questo perché volevo proseguire. Volevo dirle che lei ha commentato dicendo che non gli può fregare di meno di dedicare la trasmissione a quel povero Cristo che è sulla cupola. Sì, ma perché posso, allora, posso dedicare la trasmissione a chi mi pare. Ma lei, scusi, posso dedicare la trasmissione, a parte che non c'è dedicare nessuna trasmissione a nessuno, cioè in prego? Primis. No, quelli che lottano. Non che lottano voglio dedicare la trasmissione a nessuno, dunque non me ne può fregare di meno. No, lei non vuole dedicare, ma non vuole neanche parlare di queste persone che stanno lottando quotidianamente con il quotidiano, con la difficoltà di sbarcare il lunario, perché lei non è protetto da qualcuno. Ma ci sono altri posti dove si parla di queste cose. Ci sono altri posti, altri luoghi, non sono obbligato a parlare di queste cose. No, lo devo dire a tutti, se la colpa è nostra, che ascoltiamo la sua trasmissione. E allora smetta, Perché siamo interessati al programma di Radio 24, però noi stupidi alle 7 di sera, ci mettiamo ad ascoltare la sua trasmissione, dovremo boicottarla. E sì, così lei è andata fuori dalle palle, ha capito? Sì. Sì. Perché lei ride su tutto e su tutti. Si è sfogata? Ride su tutto e su tutti, su quelli che lei vuol mettere alla berlina. Si è sfogata? Perché le persone si che è sfogata? Lei non vuol mettere alla berlina vengono innalzate. Si è sfogata? Vengono portate proprio come esempio. Si è sfogata anche abbastanza? Si è sfogata, no, non abbastanza? Che guardi che io, Radio 24, sì, lo dico in diretta. E se il ma lei lo può mi dire? Sente, non mi, non, cioè, lo dico sono, in diretta, sono, se il direttore mi sente... Sì. Voglio proprio sottolinearlo. Faccia un appello, tutti faccia, i giorni. Faccia un bel okay? appello. Sì. Quindi ascolto anche lei. È una delle poche volte che sono intervenuta. Sì. Perché mi ha dato fastidio enormemente. Sì. E l'ho fatto la sua apposta. Frase. Perché lei sta insultando non solo quel povero Cristo, ma anche i suoi collaboratori che rispondono al telefono. Benissimo. Che fanno parte di quella categoria di lavoratori. Perché non si mette a piangere? Si guadagnano lo stipendio con il loro sudore. Siamo qui 800 24 00 24, riprendiamo con la Zanzara. C'è Maretta, dicevo, all'interno del Partito Democratico, perché diciamo la verità, Parenzo, stanno cambiando le carte in tavola al povero Renzi. Questa è la realtà. Ma non a Renzi, stanno, sì, sì, stanno cambiando rivedendo le carte in tavola su. Cioè, già le regole non prevedevano, diciamo, la possibilità di far svolgere le primarie allargate in questo modo. Il ballottaggio e l'albo degli elettori è una cosa per fregare Renzi, è chiaro, no? L'albo degli elettori ma tre settimane prima. Perché sì, è così, un po' è così, per rendere più difficile la corsa di Renzi. Se uno vuole votare alle primarie, va lì, si iscrive e poi vota negli Stati Uniti. Perdere i tecnicismi e le cose formali, stanno facendo di tutto per mettere i bastoni tra le ruote a Renzi, e questo è talmente chiaro che non è che ci vuole un genio per scoprirlo. Hanno dovuto così cambiare le regole, ma è così, sennò... ti dico che è così. Danilo da Milano, se lui ha i voti li prende, poi bene, no? Danilo, indipendentemente dalle regole che ci chiama sono. Danilo da Milano, un ospite ci ha raggiunto, fra poco è già in studio, ha un autorevole ospite, bisogna beh, autorevole giudicare. Secondo in te questo secondo me sì, molto autorevole. Vabbè, adesso non sei tu a giudicare, Danilo da Milano. Danilo? Sì, pronto. Dica. Buonasera, io buonasera. Volevo agganciarmi al discorso del presidente dell'Aler di Lecco, se ho capito. Ah, quello bene. Che ha tagliato le ruote, so che è un argomento molto sentito questo qua, eh. Dicono quello, anche uno quello, del PDL, forse un militante, un dirigente, un iscritto, non lo so. Quello è un fenomeno, io chiedo, propongo di sì. applicare la flagranza differita per questi fenomeni. Sì, ho capito, non è che uno può andare in galera perché ha tagliato le ruote della macchina, no, di un disabile, no, abbia pazienza. Però cioè, si può vietare, altrimenti altro può, che affollamento delle carceri. Gli si può vietare, tipo Daspo, sì. di scendere in campo nel tessuto sociale per 4 mesi, 5 mesi. Sì, no, che vuol dire scendere in campo nel tessuto sociale? Scusi, spieghi. Mi collego al Daspo, nel quale il con Daspo, la flagranza differita non si può entrare allo ma stadio. Ma no, bisogna fargli pagare un po' di quattrini a questo disabile come risarcimento. Oltre a quello, chiaramente. Non lo so ma che quello... cosa, quali provvedimenti ci possono essere. Le norme che ci sono già vanno benissimo. C'era già l'associazione portatori di handicap, credo. Ma specificamente... A che fare? A fargli pagare qualcosa? E certo, cioè, credo vabbè. Di sì, spero che lo comunque facciano, Danilo, perché... ovviamente su questa cosa qui uno che deve fare, lo deve impiccare, perché uno che posteggia con la Jaguar al posto di un portatore di handicap non riconosce nemmeno la colpa e dice lo faccio da 3 anni e gli taglia pure le gomme, quello protesta e quello taglia le gomme, uno che deve fare di fronte a cose del genere, questo va preso e non lo so, è un signore di ma 70 il dileggio anni. Già il dileggio dovrebbe basta questa cosa qui. Voglio farvi ascoltare però ieri sera Ballarò. Io non è che sono parziale, è vero che sono amico di Giorgio Mulè e tutto quello che volete, però oggettivamente, da quello che mi hanno detto, perché io l'ho sentito anche in ritardo, insomma, il presidente della Camera Fini è andato un po' in difficoltà di fronte ad alcune contestazioni. Per esempio, quando a un certo punto la contestazione di Fini era che l'editore di Mulè è Berlusconi, vabbè, ma lo sappiamo, l'editore di Mulè è Berlusconi. Poi la contestazione era che c'era un candidato di Futura Libertà indagato, invece lui fa la lotta contro, eccetera, eccetera. Poi c'era la legge anticorruzione che non è fermata dal PDL, ma Mulè dice noi lo diciamo ma non ci legge, insomma tutte queste cose. Io voglio farvi riascoltare quando Mulè dice lo spettacolo di Fini è triste, fra poco ci sarà l'estrema unzione, lui sarà ancora lì. Risentiamo se ce l'abbiamo, risentiamo. Lo spettacolo a cui ho assistito sinceramente è molto triste perché il presidente Fini è il presidente della Camera, 30 anni di esperienza, 8 mandati sul gruppone, insomma io Avevo ancora, come dire, 14 anni, 13 anni quando divenne deputato, avevo molti capelli, adesso ce l'ho quasi bianca, avevo fatto la prima comunione, fra un po' ci manca poco e mi prendo l'estremunzione e lui sarà ancora lì. Insomma, può dirci qualcosa di nuovo, può fare qualcosa di nuovo, di discontinuo. Non mi molesti, moschito. Va bene, abbiamo con noi Altero Matteoli, buonasera. Benvenuto. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Che ruolo ha nel PDL lei? Nessuno. Nessuno? Sono solo senatore. Solo senatore, sì, toscano, sì. Ex AN. Ma ex Missino. Questa divisione ci sarà o no? Tutti parlano, no, di questa divisione. Come? No, no. Lo dica, è una, dividersi è una stronzata. No, utilizzi il linguaggio della zanzara, no, una volta tanto. Sì. Ho detto che è una fesseria. Sì, diciamo, però, andiamo oltre. Poi, andiamo oltre. Poi fa piacere, sì, sosterrò anche che è una stronzata. Ecco, che ci, cioè, lei vuole rimanere legato a quelli di, sì, Forza Insieme. Come avete deciso? Siccome ho deciso insieme a tutti di dar vita al Popolo della Libertà, non sono pentito e voglio restare nel Popolo della Libertà. Anche se ormai sto Popolo della Libertà è il caos spittolare, lo sa. Non è vero, una specie di guerra per bande. Sarà ancora, come? Vedrete, alle elezioni sarà ancora il primo partito. Addirittura? Il primo partito. Scusi, adesso lei l'ha detto oggi, che giorno è oggi? 19:39, sì, il 3 ottobre? 3 ottobre, sì. Guardi, il primo, sarà il primo partito delle elezioni del PDL. Sì. Lei è convinto di questa cosa qui? Certo. La cosa pazzesca, 19:39. Ma non ride neanche, questo è il fatto. Cioè, quasi convinto. È davvero sicuro. Di lei che... è già da quant'è alla Camera? Lei? Io già gli ho fatta questa domanda, dall'83. Dall'83. 29 anni. Come fini? 1983. Sì. No, 1700. Ah, ecco, nell'83 c'era ancora l'Unione Sovietica e tutte queste, sì, cose qua. Sì. Ho visto, vabbè, cadere il muro di Berlino, ho visto tutto. Fabrizio, che poi lui ha questa signor straordinaria... Corona, aspetta, c'è il signor Corona. Fabrizio? Buonasera. Come stai? Bene, grazie. Che fai? Dove sei? In macchina. Ma come in macchina? Sei quando in è che vai in carcere? Ma come? Come in macchina o in carcere? No, quando è che vai in carcere? Spero mai. No, ma quando è previsto? Ci sono dei rumors, delle voci che ti che dicono che insomma potresti andare in carcere anche presto. Noi non ce l'auguriamo, naturalmente, per carità. Cioè, hai timori da questo punto di vista? No, non te ne frega niente. Hai preparato, no, le valigie? No. No, assolutamente no. Aspetto una sentenza che dovrebbe arrivarmi naturalmente, ma sai, con me è tutto difficile con un punto di domanda. Il 17 c'è la richiesta degli affidamenti. Senti una cosa. Ah, quindi sei al confine adesso, sei con la macchina verso la Svizzera. No, sono stato da una mia amica che si chiama Danny. Danny? Sempre donne, frequenti un ma disastro. Ma chi è Danny? Quante fidanzate hai in questo momento? 2, 3, 4? No, quante ne hai? Assolutamente nessuna. Con nessuno? Ah, ti sei lasciato pure con l'ex fidanzata o moglie di De Rossi? Ma quella mica è stata la mia fidanzata. Come no? Ti sei presentato una volta, eravamo io e Parenzo, vi faccio vedere la mia fidanzata adesso con tutte le foto, le cose. Sì. Ci hai accolto nel tuo bellissimo ufficio, studio. Assolutamente. Senti, ma su Matteoli, che è qui in studio con noi, abbiamo delle foto, delle cose. No, è una persona molto tranquilla. Molto tranquilla. Sai, no, che devo dire che io questa cosa che ha detto lui l'ho detta forse 6 mesi fa, no? Cioè, che hai detto? Tu sei pure galli della loggia. Che hai detto 6 mesi anche fa? A voi ve l'avevo detto. Cosa hai detto? Che il PDL sarà il primo partito comunque, che se il presidente si presenta di nuovo viene eletto sicuramente. Ah, ma tu sei ancora l'ultimo dei berlusconiani insieme a Matteoli. Io sono uno che guarda le cose. Che guarda le cose. Vabbè, vediamo se Matteoli... Avete detto tutte e due una cosa molto compromettente. Lo candiderebbe lei Corona? Certo. Ma come, certo? Certo che lo candiderebbe. Corona? Sì. Corona. Candidato. No? Col PDL. È uno che ha affrontato tutti questi problemi. È ancora lì a combattere. Combatte, è un combattente. A me piacciono i combattenti. Hai capito, Fabrizio? Io l'ho detto che tra 20 anni sarò presidente del Consiglio. Sì, tra 20 anni. Tra 20 anni. È già tanto che sarai vivo. Io l'aspetto, È già tanto che sarai vivo, ma te lo dico con affetto, se vuoi. Vabbè, allora io ti dico una cosa, però, Fabrizio, tu mi devi raccontare una cosa che ho saputo. Dimmi se è vera. Il grande accusatore di Antonio Conte. Stiamo parlando di calcio, tra l'altro il senatore Matteoli è un tifosissimo della Juventus, sì. Si chiama Filippo Carobbio, tu non capisci niente, Parenzo, prenditi un attimo di pausa, niente. Vai in bagno, fai quello che... Filippo Carobbio, ma è vero o no che Filippo Carobbio insieme alla moglie sono venuti da te nel tuo studio perché volevano vendersi la storia di Conte, cioè volevano dei soldi da questa vicenda, mi racconti? Sì, non è, devo dire che però non è che c'è qualcosa di mai, è vero? No, che... per carità. Ormai tutti hanno capito che su tutte queste storie ci si può fare soldi, no? A quei tempi, essendo Conte allenatore della Juve, campione d'Italia, e comunque sì, avrebbe creato un grandissimo problema, sapevano che in sua intervista poteva avere un grandissimo valore. Sono venuti da me e hanno cercato di trattare l'intervista. Poi l'intervista l'ha fatta la moglie. Ma voglio dire, quanti soldi volevano per... No, ma penso che l'operazione di Carrobbi poteva essere un'operazione intorno ai 15-20 mila euro. Loro volevano 15-20 mila euro? No, l'operazione sarebbe stata da 15-20 mila euro. Io ne avrei dati massimo 3. Ma, insomma, alla fine, questa intervista della moglie, l'ha pagato o no questa intervista? È stata pagata 5.000 euro. 5.000 euro. Ma sì, però non è strana questa cosa qua. Cioè, uno... Volevo sapere quanto si è venduto a Schettino la sua ospitata? Vabbè, questo qua lo sappiamo. Quanto si è venduta l'intervista la moglie, la rumena che era sulla nave quando è affondata? No, d'accordo, però tu ci stai dicendo che in una vicenda molto importante del calcio, due signori, tra cui un signore che è stato il principale accusatore di Conte, sono venuti da te a dirti: beh, noi vogliamo in qualche modo essere pagati per raccontare quello che è successo, giusto? Sì, però oltre a essere pagati avrebbero dovuto dare una visione della notizia. Sì. Diversa da quella che era uscita sui giornali, per pulire un po' l'immagine, quindi avrebbero utilizzato come pulizia dell'immagine e come lucro economico. Comunque, la sostanza è che la moglie di Carrobbio ha preso 5.000 euro per un'intervista. A me la zanzara non ha dato una lira. La moglie di Carrobbio non ha preso una bravo, lira. Bravo, lo dico. E chi l'ha presa i 5.000 euro? Io, chi deve aver preso? No, tu per aver fatto cosa? Da intermediario? Per aver venduto le foto, l'intervista, è normale. Comunque, Carrobbio e la moglie si sono venduti un'intervista sulla storia di Conte. Cioè, se la sono voluta far pagare questa cosa. Hanno trattato un'intervista sulla storia di Conte. Sulla storia di Conte. Vabbè, agli archivi. Fabrizio, sì. Ti abbraccio. Non metterti nei guai ancora, per cortesia. Ma ormai ne ha troppi. Ormai più di questi non si possono avere. Più di questi non si possono vai avere. Vai a letto presto, una pasta con il burro, un po' di formaggio. A letto presto ci devo andare per forza. Anche un se canarino, poi... beviti. Ma no, ma troppe donne, questa è la realtà. Troppe donne. Poi chissà se poi fa sul serio qualcosa, perché io poi ho dei dubbi su questo. No, vabbè, adesso questo lo... ti arriva l'acquarella per diffamazione, signor Corona. Io fossi signor Corona, quando uno... Diciamo che uso degli aiuti, dai. No, veramente? Sì. Che aiutini? Cioè, le pilloline? Quella blu, è presente quella... Ma quante ne usi? Scusa, no, siamo interessati a questa cosa. Almeno 2 o 3 al giorno. 2 o 3 al giorno? Cioè, questo per farlo ogni giorno, però, perché tu ogni giorno... Almeno, certo, no? È normale. No, ma tu stai dicendo sul serio. Sto scherzando. Ma che scherzando, sì, scherzando. Vabbè, ciao, a presto. Ciao. Ciao. 19:45, 800-24, 00-24, riprendiamo con il senatore Matteoli, che ha detto che separarsi è una stronzata, si può dire, no? Una stronzata. Gliela possiamo attribuire questa cosa, è una stronzata. Sì, come no? È assolutamente una stronzata. Era segnato ormai. Però voglio dire, ci sono però all'interno del PDL, tra i suoi ex colleghi, ribolle qualcosa, o è solo una cosa per ottenere più... C'è molta insoddisfazione, gradirebbero che il PDL funzionasse meglio, questo sì, e arrivano anche a ipotizzare questo, ma non credo che resteremo uniti, altrimenti perdo la scommessa, non vinceremo. Vabbè, quello non sarebbe grave, però no, dire... per me sì. No, sì. Beh, perché lei si vuole candidare, giustamente. Naturale. Ci mancherebbe altro. Io ti ripeto ancora una volta, ma chi glielo fa? È dall'83, da lei è dall'83. Io glielo dico con affetto, ma te la conosco da tanto tempo. Dall'83, cioè uno dice dopo l'83, dopo tanti anni, quanti sono? Tanti, 20 quasi. 29. 20, 30 quasi. Quando ci saranno le elezioni saranno 30 anni spaccati. Dopo 30 anni uno dice, vabbè, oppure senza politica lei non ci può stare. No, non ci può è stare, la passione della mia vita, perché devo smettere. Beh, questo è giusto, c'ha ragione. Cioè, senza, si sentirebbe morto, si sentirebbe distrutto. No, morto, tocco ferro. Tocchi ferro. Ha ragione, cioè è la sua passione, è la sua vita. Dice, perché cioè lei non ha mai lavorato, diciamo la verità. No, come no? Io non sono nato in una famiglia ricca, sono arrivato in Parlamento che avevo poco più di 40 anni, ma fino a quell'età... Fino a 40 anni che ha fatto? Ho lavorato, ho fatto dirigente d'azienda, ho fatto... Però 10 anni avrà lavorato, 15 anni. È quello che... No, perché... Forse indagare quando ho lavorato. Perché? No. Però resta la domanda, dopo 30 anni uno dice, vabbè, ma che devo dare ancora? Cioè, sto lì attaccata alla poltrona... Cioè, non è mica soltanto una poltrona far politica. No, sì, d'accordo, però uno dice, vabbè, spazio a quelli più giovani, oppure secondo lei i vecchi hanno ancora un passo in più? A me nessuno mi ha dato spazio, conquistato, e anche i giovani se la devono conquistare anche loro. Dunque, basta con questo giovanilismo. No. A Renzi le piace, lei che è toscano? Dica la piace a molti del PDL. Renzi ha fatto un grande errore nella sua vita, iscriversi al Partito Democratico. Questo è buono. Che doveva fare? Doveva venire al PDL? È un personaggio un po' curioso, io lo conosco abbastanza perché è toscano come me. Io credo che più va in giro col suo camion, sì. Più camper, no il camion. Camper, più Bersani piderà voti. Perché dice lei? Perché lo Renzi, vendono come uno di destra. Renzi non è assolutamente uno di destra, ma Renzi va per slogan, poi dopo basta andare a vedere come ha fatto il presidente della provincia, come fa il sindaco di Firenze. Simpatico, ma lei non è uno di quelli appassionati di Renzi all'interno del PDL. Ce ne sono molti. Il suo partito, però, molti sono tentati di dire Renzi viene con noi. Una cosa è dire che Renzi rompe gli schemi della sinistra, una cosa è votare Renzi. Una cosa ben diversa. Però mi dica la verità, se non fosse nel Partito Democratico. Beh, certo, se fosse uno di destra mi piacerebbe. No, di destra, cioè fosse anche lì, cioè se fosse lì sul mercato elettorale. Se fosse un'altra cosa, ma è Renzi. Ho capito, però dice un sacco di cose che diceva Berlusconi nel 94, ma non è vero. I sindacati, più libertà in alcuni settori. Insomma, non usa l'anti-berlusconismo come slogan. Però Berlusconi nel 94 non aveva governato nulla. Sì. Invece Renzi, che si sta presentando ma ora, chi se lo ricorda come ha governato la provincia di Firenze? Io sì, me lo ricordo lei, perché ma lei lo domanda a me, sì, non lo domanda mica a qualche altro. Questo, e se lo domanda a me, io lo so come ha governato e gli rispondo. Però poi i cittadini hanno votato, l'hanno fatto diventare sindaco di Firenze in pompa magna. E ora sono pentiti e sperano che vada a Roma per le farselo di torno. A questo. Scusate, però Berlusconi alla fine la realtà è che vi vuole rottamare tutti, lo sanno. Cioè vuole, non gliene frega più niente del PDL. Vuole togliere. È stufo. Colonnelli, Colonnicchi. Vuole fare cose nuove. Pensa che ci sia una guerra per bande e c'è una guerra per bande. Insomma è stufo di questa roba qui. Lo dica, no? No. Perché lo devo dire se non lo penso e non è vero? Secondo lei non è vero che è stufo del PDL? No. Vi adora tutti i dirigenti del PDL? No. No, c'è chi secondo stima, lei chi, ecco, ma no. Secondo lei chi è che Berlusconi proprio non vuole vedere? Cioè quelli che Berlusconi quando li vede dice proprio così. Sicuramente Bersani, no, ma del suo del sì, ho capito. Ma è vero che gli ex di Forza Italia vi chiamano i fascisti? In privato, sì, molti. Qualche cretino c'è. Non è vero. La Biancofiore è una cretina. Chi ci chiama fascista è un cretino. Però ce ne sono all'interno. Ce ne sono all'interno. Sì, qualcuno c'è. Parecchi. No, parecchi. Cioè, c'è una nostalgia di come c'è una nostalgia di AN, c'è anche una nostalgia di Forza Italia, no? Ma la nostalgia non è mica sempre negativa, Sì, lei non si vergogna un po' di Fiorito che viene dalla sua storia politica? Ma Fiorito per quello che ha fatto lo trovo assurdo che sia in un carcere. Cioè? Dove essere un manicomio. Addirittura. Perché un manicomio? Perché sono cose da insomma, non ci vogliono i carabinieri per il modo in cui l'ha fatto. È più appropriato uno psichiatra. Ma anche allora tutti i consiglieri del gruppo dimostrare come hanno problema, speso i soldi. Io non so quello che ha. Sì. Ma le pare che uno che viene accusato di aver fatto quello che ha fatto lui e va in televisione ogni sera a peggiorare la sua posizione, ma solo per questo bisognava che qualcuno che gli questo vuole è l'avvocato, bene, questo è l'avvocato, questo è l'avvocato da Ormina. L'avvocato l'ha scelto lui, non mica scelto io. I grandi successi dell'avvocato è una strategia processuale, quella di andare lì, combattere, spiegare come stanno le cose. Comunque interessante, meglio sarebbe più appropriato il manicomio. Sì, Jeep Wrangler nei 3 giorni del coso, lei l'ha letto. Con i soldi dello Stato, con i soldi nostri, viene dal movimento sociale questo qui, come lei. A credere che questo sia accaduto. No, è stento a credere. Forse è accaduto sicuro. No, dico, forse l'aveva ordinata prima. Non so che, perché sta nevicando uno va a comprare. Ma viene dal movimento sociale. Sì, non lo nego. Per carità, no, non è lo dico nego. La cosa come non l'ha toccata un po', dice questo qua viene dalla mia storia politica, che è successo? No, se ne parliamo seriamente, certo che mi dispiace molto. Che bisogna dire? Ma mi dispiacerebbe anche se fosse venuto. Com'è che lei ha fatto 3 matrimoni? Una cosa pazzesca. Perché non, vabbè, tre matrimoni. Bello. Siccome lei è il record men in Parlamento, lo sa? No, ce ne sono. Ce ne so. Quanti siete che avete fatto tre matrimoni? Questo è interessante. Non l'ho contato. Lei è un esempio per tutti, perché in un paese in cui non si sposa nessuno, lei si sposa tre volte. Invece è un bellissimo esempio. Dunque dovrebbe essere a favore anche dei matrimoni gay, per esempio. No. Tra l'altro. Come no? No. Come? Più matrimoni per tutti. Sono favorevole alle coppie di fatto che devono essere. Però non ai matrimoni gay. No, matrimoni gay. Le adozioni non ne parliamo nemmeno. Le adozioni gay. Per gay. Beh, no. Vendola vuole adottare, ha detto che vorrebbe adottare. Pensa di essere un padre meraviglioso. Auguri. Ma quanti soldi le costano questi tre matrimoni? Un sacco di soldi, eh? No. No, è stato fortunato. No, perché è stato fortunatissimo. Non essendo ricco, anche noi ci facciamo poi i cazzi degli altri. Scusi, facciamo ma me ne sto anche rendendo conto. No, però è bello entrare nell'intimo del politico. E secondo me lei è un grande esempio. Perché, ripeto, in un paese mandi un messaggio ai giovani: sposatevi una, due, separatevi, tre, quattro volte. Separate. Cioè, tradite. Adesso questo perché, no, cioè, perché fate delle cose, no, fate delle cose, vivete. Perché è bello, lei può dire: confesso che ho vissuto tre matrimoni. No, beh, insomma, è meraviglioso. Poi adesso non sappiamo i dettagli, magari ci sono delle cose drammatiche, non vorrei toccare queste cose. Non c'è nulla di drammatico. No, separazioni normali. No, cioè, tre, no. Però, ma com'è che uno a un certo punto dice la terza? Io voglio capire, la seconda posso capire, ma com'è che uno la terza volta? Perché? Perché è un appassionato di matrimonio. Però ogni volta ho sempre pensato che fosse per sempre. E questo è interessante. Questo è bello. Questo è bello. Però. E poi questo magari ogni volta si raccolgono voti. I matrimoni servono anche per raccogliere. No, o perderli. Ma senza politica lei riuscirebbe ad arrivare a fine mese? Mi dica la verità, cioè, lo stipendio da parlamentare le serve da questo punto di vista? Per... Io non ho mica altri introiti. Per cui restare in Parlamento da questo punto di vista, però ormai ha messo da parte qualcosa. No, dopo tanti anni il vitalizio me lo sono guadagnato, no? Quanto sarà? 9.000 euro? Non lo so, non me lo sono mai occupato di quanto sarà. Ne occuperò il giorno che non sarò più parlamentare. Chissà, perché, fra quanto. Perché me ne dai fra 20 anni? Ora aspetto che Corona diventi presidente. Le zanzare di casa mia si nutrono di... Eccoci qui, la zanzara questa sera in diretta da Roma, 800 24 00 24, con David Parenzo naturalmente. Buonasera. Che mi accompagna sempre. Buonasera. Non nel letto come vorrebbe, chi è che ha detto prima? Briatore. Una sporconeria. Quella che ha detto Briatore e il senatore del PDL Altero Matteoli, che è un ex Altero, che dice... Altero. Super tifoso della Juventus, super tifoso della Juventus nonostante la sua... Vuol dire, nonostante il fatto che sia toscano, ma non è vero, perché ho detto una stupidaggine, perché in Toscana ci sono un sacco di juventini. Tantissimi sono juventini. Ma non la colgono male ogni tanto quando va allo stadio a Firenze? No. Matteoli, no. No. Fare i cori anche? No, i cori. No. Matteoli, no. No. L'applaudo, che succede? No, applaudo adesso. È più facile che fischino. Quindi ieri sera... No, non l'ha visto. No. Cioè, giocava la Juve. Ah, è vero, giocava la Juve. Preferito la Juve a Fini, certo. Decisamente. Basta, cioè, Fini ormai è una storia. Cioè... No, ma insomma, l'avrei preferito la Juve anche in passato. Anche a Berlusconi. Però ormai si è rovinato. Fini... La Juve, stasera c'è un incontro con Berlusconi. Se ci fosse la Juve, che cosa farebbe? Crederei a Berlusconi di vedere la partita. Sì. Cioè, durante l'incontro con la televisione, diciamo. Sì, oppure in una saletta là accanto e poi se ne parla. Tanto Berlusconi che deve dire stasera? No, deve dire una cosa importante. Ma che cosa importante? Ormai che deve decidere Berlusconi? Ma secondo lei si candiderà o no? Sì. Si candiderà, Si candiderà. Cioè, l'immagine di Berlusconi che torna a Palazzo. Lei ha già fatto una promessa piuttosto ardita, cioè che il PDL alla fine sarà il primo partito all'elezione del 2013 e che lei tornerà alla Camera, al Senato, dove sarà, giusto? Abbiamo fatto queste promesse oggi, alle 20:01. La previsione di Matteoli. Io tornerò al Senato, giusto? E Berlusconi, no, e il PDL sarà il primo partito. Siamo d'accordo? Questo lo scriviamo. Lo scriviamo, poi non si può più cambiare questa andata. Poi la scommessa qual è? Se vince lei, che dobbiamo fare noi? Come? Matteo, se una cosa del genere succede, cioè se lei torna alla Camera o Senato, quello che è, e il PDL resta il primo partito, noi che cosa dobbiamo? Le paghiamo qualcosa? Applaudire? No, pagare. Adesso anche applaudire. Che vuoi? 200 euro, 300 euro? No, applaudire dovete. Applaudire e basta. Questo Matteoli ce l'aveva indovinato. Ce l'aveva indovinato. Ma Berlusconi, lei torna a Palazzo Chigi dunque, secondo lei, 2013? Se si candida, facciamo la battaglia per far tornare Berlusconi al canale. Cioè, lei pensa per davvero che Berlusconi possa, dopo tutto quello che è successo, la nipote di Mubarak? Se no, non sarei. Se no, non sarei d'accordo sulla sua candidatura. Ma è veramente, lei è straordinario. Io vorrei abbracciarla, è l'ultimo davvero dei giapponesi. Ma veramente non lo pensa nessuno nel suo partito. Berlusconi, neanche Berlusconi, forse nemmeno Berlusconi, non lo vuole fare nemmeno lui, forse. Dipende da punti di vista. Io sono convinto che ci si possa. Guardi, che questo paese non è di sinistra. Non ha mai votato nessuno di sinistra lì. Prodi, presidente... centro-sinistra, Prodi. Non è di sinistra. Come lei mi insegna, uno dei migliori presidenti del Consiglio, peraltro. No, uno dei peggiori. Presidente del Consiglio, Prodi non ha mai stato eletto aderente al Partito Comunista. No, lui dice non c'è stata nessuna per vincere a sinistra i comunisti per vincere hanno dovuto candidare un democratico. Ma esistono ancora i comunisti, scusi Matteoli? Cioè, no, i comunisti non esistono. Ce ne sono. Anzi, sono orgogliosi della sua storia. Sì. A me piacciono anche da questo punto di vista, pur essendo stato sempre un avversario, però. Sì. La coerenza paga. Ma vi siete mai menati? Quando era giovane, militante al MIS, un bello schiaffone a qualche comunista, gliel'ha mai dato lei? Io ho fatto il Messino a Livorno, quindi applausi ne ho avuti sempre pochi. Sempre sputi? Fischi tanti, sputi tanti. Sì. Ma anche alle però mani. Io non ci credo che lei vede di nuovo l'immagine di Berlusconi che entra a Palazzo Chigi. Se la vede di nuovo questa immagine del 2013 con l'incarico con il doppio petto, e perché non dovrei vederlo? Rubi, processo, i casini che sono successi, il partito degli onesti, un'altra soluzione nei confronti di Berlusconi ci sarà, e quindi anche lei è convinto per esempio che fosse davvero la nipote di Mubarak, la signora Rubi? No, nessuno, mai conosciuto, quindi non so. No, ma al di là di non averla mai conosciuta, d'accordo. Ma quando gli hanno raccontato si è fatto due risate. Che strategia processuale stavo utilizzando? Ma non hanno mica usato la strategia che era la nipote di Mubarak. Come no? Signor Paniz, se l'ha mandato anche Paniz, in Parlamento. È stato accusato di aver detto che era, non ha mai sostenuto che era la nipote di Mubarak. Ma voi avete visto un altro film? Ma come altro film? Parlamento. Un altro film. Ma no, che sape che era convinto che fosse questo. Sì. Questo. Però voi avete visto un altro film. Scusi, però mi dica la verità. Lei che è vero i tre matrimoni, però Berlusconi un po' sta fissa delle donne. È stato decisivo nella sua parte. No, alla fine. Scusi, ma abbia pazienza, che è un difetto se a un uomo gli piacciono le donne, cioè, o se alle donne gli piacciono gli uomini. Meglio lui che bello, dice lei, no? Per carità, ognuno però dei gusti non mi metto a discutere sui gusti, però preferisco uno che gli piace le donne, per carità. Non è un difetto, forse un po' troppe, però no, Matteo, forse questo glielo dico stasera da parte della Zanzara. Durante la riunione lei si alza e dipende. Ci sono stata la Zanzara, mi hanno detto di dirle, non caro, ci vada più, dipende dalla forza che uno ha dentro, no? Ah, perché per lui è impossibile fermarsi, dice. No, le donne per confronti degli uomini sono un'attrazione insostituibile, è una cosa stupenda, sono, è come le donne nei confronti degli uomini. E se c'è questa voglia di donna, è una cosa stupenda. Berlusconi, cosa c'è di più importante, no, ma lo dice, più bello dell'amore? Ma lei è un radicale, ma va benissimo, infatti. No, altro che siete voi, altro che Dio, patria e famiglia. Dovrebbe essere militante del partito. Libertinaggio, amore libero, meraviglioso. Io sono felice. Innamorarsi, benissimo, queste rigidità che fate. Comunque, la cosa più bella che accetto questa sera, Matteoli, è questa: che Fiorito, il posto giusto, non è il manicomio, ma è il manicomio. Il manicomio. Poi, a prescindere da questo, io sono nettamente contrario alla carcerazione preventiva. Sempre. Ma questo però lo valuto. Io al finanziamento pubblico. Bisogna affamare la bestia, togliere tutti i soldi ai partiti, tutti, e ricominciare da capo. Se lo facciamo a tutti, va benissimo. Altero Matteoli, grazie, buona serata. Grazie a voi. Buon lavoro. Buon mi incontro raccomando. Con Berlusconi questa sera alle 21. Non si deciderà nulla, sappiatelo, non si deciderà niente. No, non è convinto. Perché non si deciderà niente di decisivo. Ci resterete. Ci resterete male perché decideremo cose importanti. Ce ne dica una allora. No, una all'ordine del giorno. Una. La spia non la faccio. Comunque, a Pisa è nato uno sportello per i politici trombati. Per i politici per dice la depressione, no, veramente dice è nato uno sportello per i politici. Ma lei quante lei auspica cadi? Che vada a iscrivere? No, no, però se mai nel 2013 lei dovesse perdere la scommessa, sappia che c'è a Pisa uno sportello per però, i politici. Scusa, Matteoli, è vicino. Ma lei entrerebbe in depressione? Entrerebbe in depressione se non fosse più la gamba. Quando ha smesso di fare il ministro ha dovuto fare gli scatoloni, un po' di depressione gli è venuto. No, un minimo. Assolutamente no. Abbandonare il ministero, queste cose, l'auto che arrivava. No? Stasera sei impazzito, vabbè. Ma dal ministero sono andato al Senato, non certo. È che poi Palazzo Madama sia dice tutto vicino. Certo. E siamo qui alle 20:10. Stonato. No, che stonato, sono intonatissimo, che stonato. Maria Paola da Milano, buonasera, 800 24 00 24. Vestiti da pinguini, come calmo. Vi ho chiamato un po' di tempo fa. Vestiti da? No, quando non siamo... eravate a Busta Paga di Mediaset, eravate no, vestiti da Busta pinguini. Paga, avete purtroppo no. Mai Busta stati, Busta Paga, purtroppo, virgola, purtroppo, virgola, no. Non eravate a Busta Paga, andavate purtroppo gratis. No, punto esclamativo. E mi avrebbe fatto piacere ma essere a Busta Paga. Sì, ma che cara. Bella persona, che bella. Le persone oneste, perché? Bellissimo. Ma non è la camorra organizzata, l'andrangheta eppure il movimento di rivoluzione internazionale per il dominio del mondo. È un'azienda, amore mio. Senta un po', ma lei lo sa che psichiatria a Milano ci sono dei grossi professori? Perché cosa, capito, scusi, signora Maria Paola? Magari andate a trovarli, fate visita. Ma perché ci sta attaccando così? Qual è il sprombattuto? Non ne posso più di sentire di Berlusconi. Non vi reggo più. Non ce la faccio più. Ho capito, signora. Cambiamo che cosa? Tipo. Senta, per esempio, vi do un compito, no? Poi io vi seguo. Sì. Ecco, quando dopo l'elezione ci sarà la sinistra, perché insomma ormai lo sappiamo tutti, arrivano gli stranieri, sa, in visita. Berlusconi era perfetto, preparava quelle tovaglie di Fiandra. Ecco, Pissarelli e Fasò è il primo piatto di Piacenza. Ecco, mi dite come quello di sinistra prepara il pranzo quando arrivano la cena i grandi dalla terra. Maria Paola, io cominciamo a ridere. No, io francamente non vorrei infierire. No. No, non vorrei infierire su di lei, che è una signora terribile. Non dico non dico di una certa età, perché non mi permetterei. Sì, di una certa età. No, ma non lo dico nemmeno. Sì, non vorrei infierire per questa per questa stronzata che lei ha detto, adesso diciamola tutta. Lei ha detto una, perché con voi non si può parlare seriamente. Anzi, partecipo quella povera signora che ce la metteva tutta per civilizzarsi. Non c'è niente da fare. No, sicuramente non c'è niente da fare, però io non voglio infierire, perché lei ha detto una stronzata, lo ammetta. Ma voi le avete detto fino a 2 minuti fa, Ma abbiamo parlato no, di No, ma Berlusconi, lei ha detto che Berlusconi accoglieva i grandi del mondo, non so con che cosa, mentre Bersani li accoglierà. Pranzi suntuosi. Di ma là che... si incomincia, il primo piatto più celebre è quello. Lei ma non è mai stiamo... andato quello di Piacenza. Ma... piacentino. No, me lo ma dica chi lei. Se ne frega. Me lo dica lei, qual è il piatto, il primo piatto dell'Oltrepò piacentino? Piacentino, Pissarelli e Fasò. E cioè pasta e fagioli. A parte che come fa a sapere che verrebbero cotti? Io sono pavese di nascita e vado anche nel Piacentino. Però scusi, cara signora Maria Paola, magari ai grandi del mondo, se Bersani fosse presidente del Consiglio, piacerebbe la... Però poi, lei lo sa quando si mangiano i fagioli che effetto fanno? No, me lo dica. No, se lo faccio dire da mamma, se ha una mamma che pasta e fagioli sarà molto brava a fare. No, ma me lo dica lei, che effetto fa? Lo dica qui alla Zanzara, che è una casa di vetro, si può dire tutto. Bisogna aprire le finestre e fare corrente. Cioè lei dice che Bersani provocherebbe nei grandi del mondo, offrendogli un piatto tipicamente perché, piacentino, insomma, un effetto scoreggia, diciamo la realtà qual è. Ma guarda, signora, adesso invitate la signora Berlinguer una sera e parlate di questa sinistra nuova, perché intanto ormai giriamo. Che c'entra la signora volete. Berlinguer? Scusi, che c'entra la signora ormai Berlinguer? Ormai è andata, ormai siamo... No, lei è andata, signora, noi siamo qui. No, cioè... no, e ce ne vuole per farmi andare. Vabbè, comunque allora, stia bene, saluto e e mi dite che non siete vestiti da pinguino. No, siamo vestiti, ma dove eravamo vestiti da pinguino? Ma non lo so, pinguino quando visto... eravate a Mediaset eravate proprio vestito dalla prima comunione di nero con la camicia bianca. Ma io sono sempre di nero con la camicia bianca, Mediaset, allora, non Mediaset. Juventino come me. Sì, no, non sono juventino, sono di un'altra squadra. Ah, io sono juventino. E vabbè, ne prendiamo atto. Enrico da Piacenza, buonasera. Giusto appunto da Piacenza. Buonasera. Vada, signor Enrico, allora, cosa ha da dirci alle 20:15 di oggi? Cosa allora, ha da dirci? Le devo dire due cosette. Si incazzi un po', si incazzi con per qualcosa. Sì, su, mi incazzo si incazzi. Con lei, mi ascolti un attimo. Mi faccia combattere, certo, che mi sono annoiato, su. Sicuramente, combatte. Allora, prima di tutto i pisarei che faccio sono buonissimi, io sono di Piacenza e sono buonissimi. Bravo, secondo, bravo, e questo non combattiamo su questo. Poi? Perfetto, combattete per questo. Allora, secondo, la zanzara è diventata un moscerino, lo diventa spesso davanti ad ospiti che voi ritenete di spessore come Flavio Briatore. Ma che di spessore di cosa? Ma di che stiamo parlando? Spessore, con un piccolo spessore. Ma noi utilizziamo queste frasi, sì. Ma perché devo spiegare? Parenzo, aiutami tu, ma perché... sono espedienti per tirare perché fuori le cose, per giocare con l'ospite. Ma con l'ospite piangi un po', mettiti a piangere, ti prego. Enrico, dica, prosegui. Il partito del milionario è una grandissima stronzata. Avete calato le braghe davanti a un ospite che ma è... calato le braghe dove? Perché calato le braghe? A me è sembrata un'intervista molto leggera. La vostra mi piace. Certo che è stata leggera, certo che è stata leggera. Riavvivi lei. Cosa allora avrebbe chiesto lei, caro Angelo Panebianco? Cosa avrebbe chiesto lei al signor Briatore? No, dica, lo dica. Cosa avrebbe chiesto? Io, a Briatore. Qual è la domanda? Cosa? Non mi dica le solite stronzate su Wikipedia, le cose del passato, i processi del passato, queste cose qui. Diciamo lui vuole moralizzare questa politica, lasciare a casa la gente, diciamo sì. Non diamogli gli stipendi, non facciamoli lavorare. No, non ha detto questo, già lei non ha capito un cazzo, ha capito? Cioè lei non ha capito nulla. Già, perché non ha detto questo, dunque lei non ha capito. Non ha detto che bisogna lasciare a casa la gente per strada, ha detto esattamente il contrario. Niente, no, lui diceva lasciare a casa la gente facendo per far niente, pagandolo ugualmente, province, regioni, eccetera, eccetera. Voi avreste dovuto essere più incisivi sul fatto che lui ha avuto dei grossi guai con la giustizia. Eccola. Perché non si arriva mai a quello? Ma chi se ne frega? Ma gliel'abbiamo già chiesto in passato. Ma poi chi se ne frega? Io me ne frego. Avrò il diritto di fregarmene di questa cosa o no? Oppure devo per forza chiedere a Briatore quando l'ho intervisto la sua fedina penale? Abbia pazienza. Sarò padrone di chiederlo o non chiederlo? Scusi, che me ne frega a me? Ma che me ne frega a me? Oggi non si ricorda nessuno di quelle cose di Briatore. Non so nemmeno come siano andate a finire e non me ne può fregare di meno. Ha capito o no? Sara, così diventa un moscerino. Ma che ci frega, ma che ci importa, se lo stravino ci ha messo l'acqua. E noi edimo, e noi famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo quelli. La madre del Batman, ieri a pomeriggio 5 versus Barbara D'Urso. A me ha fatto un'ottima impressione la signora invece. Io le vorrei precisare che non è bello ridere delle disgrazie altrui. Lei è una conduttrice che è diventata adesso conduttrice perché è stata un'attrice. Io non la voglio offendere come sta offendendo mio figlio, perché lei indirettamente sta offendendo in una maniera indelicata, insensibile, un ragazzo che ancora deve essere giustiziato. E non può ridere delle disgrazie altrui, perché lei avrà pure lei figli e mi auguro che nella vita le diano tante soddisfazioni come ha dato mio figlio a me, e mi auguro che non possa mai avere, che suo figlio possa avere una disgrazia umana e ridere sulle spalle. Io non riderei mai sulle spalle di un ragazzo che sta soffrendo le pene dell'inferno. Ma non si vergogna di stare lì a fare la conduttrice con questa disumanità che si trova addosso? Lei crede di essere una donna normale? Lei è disumana, lei non è vero quella bonifica che c'ha, lei è una donna che ha amato tanti uomini, che è diventata importante, che nella vita conosce solo l'amore. Demagne beve, non c'è più. Mio figlio è sano, è puro, mio figlio non ha fatto niente, fino a che la giustizia non dirà quello che ha fatto, lei non si può permettere di ridere sulle spalle di un ragazzo che sta soffrendo le pene dell'inferno. Per favore, se vuole fare la conduttrice, è inutile che fa con la faccia. Se vuole fare la conduttrice, la faccia con serietà, non con quei sorrisetti, perché l'umanità, la gente ha bisogno di umanità. lei non deve ridere di mio figlio, lei non deve ridere di mio figlio, altrimenti io un domani mi auguro che possa pure lei capitare alla mamma come me. Mio figlio non ha fatto niente, niente, niente. A noi ci piace de magne beve, non ci piace de lavorare. Altro l'idro, che noi ce l'ho. Io non rido di suo figlio e comprendo tantissimo il suo dolore. Mi dispiace perché vorrei interloquire con lei. Però sinceramente io mi preoccupo di non ridere quando intervisto qua un uomo al quale hanno magari strappato via il lavoro o una donna alla quale hanno ammazzato la figlia. Quindi se magari c'è scappato un sorrisino su alcune dichiarazioni di suo figlio, ci perdoni a me, parlo anche a nome di Paolo Del Debbio. Proverò, continuerò a fare la Eccoci qui la battagliera madre. La battagliera madre del Batman. Sì, ma qui è cuore di mamma, cioè. Beh, devo dire spettacolo, è spettacolo Tintori, si chiama Tintori. È intervenuto da noi e molti ci hanno criticato per questo. Per esempio, Giovanni da Cosenza ci vuole dire qualcosa, credo. Il signor Giovanni da Cosenza. Vabbè, Giovanni? Noi anche abbiamo fatto Giovanni da Catanzaro. Da Catanzaro, è uguale. Per noi è uguale. Io ieri se l'avessi avuto fra le mani a lei, signor Cruciani, l'avrei tirato le orecchie, perché non è il modo di infierire nei confronti di una persona che... Ma in che modo abbiamo infierito? Scusi, l'abbiamo chiamata? Sì. No, l'abbiamo chiamata a casa dicendo che eravamo di Radio 24, magari lei ci sentiva male, la signora Fiorito, perché volevamo spiegazioni su questa cosa che era avvenuta ieri pomeriggio a Canale 5, niente di più semplice. No, lei non voleva solo le spiegazioni. Vabbè, dopo lei ho chiesto, certo. No, lei chiedeva cosa aveva detto, ma mi dica certo. Cosa ha detto. Beh, sì, l'aveva già detto. Se lei vuole sapere cosa ha detto, ascolta la trasmissione come l'ho ascoltata. Ho capito, adesso. Non ce l'avevamo a disposizione, però, abbia pazienza. Io capisco che fare del giornalismo bisogna anche trovare queste cose qui, però... È un modo brutto di infierire contro Ma non la ce n'è stato nessuno, nessuno voleva infierire su nulla. Parenza, venisse sbeffeggiato Parenza, lei ci rimarrebbe malissimo. Ma no, guardi, ogni giorno il problema è molto semplice, guardi, qui non si fanno sconti a nessuno, naturalmente si cerca di non umiliare le persone come ieri ce l'avete fatto, umiliare una persona. No, cioè io, ma, guardi, è stato arrestato Fiorito, io adesso lei poi mi si incazzerà, sì. Anche dirà ma come, sono stato contento, lei dice no io non sono stato, forse lei è stato Io sono stato contento e lei mi dirà ma non è un bel sentimento. Infatti, vabbè. Secondo me è una cosa animalesca essere contenti. No, però il carcere serve anche al recupero delle persone, sappiamo che non è solo un fatto. Ma che vuol dire recupero delle persone? Lei è contento perché Fiorito è stato arrestato. Vabbè, allora? E allora io sono contento che sia stato, però il modo di trattare una persona che magari anche lei avrà avuto i benefici dal figlio in quel modo lì, alla sera bisognerebbe andarci un po' più piano, anche perché lei continuava a chiedere ma mi dica cosa ha detto ma io faccio il mio mestiere, ma non faccio domande, ma non sto, fare, non sto qui a pettinare le bambole, Giovanni, non sto qui a non fare nulla, cioè ho di fronte una persona che è comunque un protagonista anche se indirettamente di una vicenda e cerco di ottenere qualcosa, dopodiché poi non è che l'ho costretta col mitra, cioè uno attacca il telefono e dice certo. Non voglio parlare, arrivederci e grazie, cioè, è molto semplice questa operazione, no? Cioè non era costretta col mitra, ci siamo avvicinati con la telecamera, ci dice andate a quel paese, non mi rompete i coglioni e basta. Cioè, la cosa finisce lì. E infatti c'è dovuto è con noi, grazie Giovanni, però uno che molto probabilmente sarà tra i grandi Parenzo protagonisti della politica nostrana nei prossimi mesi. Oh, Bersani. Bravo. No, che c'entra bravo. Bersani? Fatto la scelta per Bersani. Allora, no. Bersani, buonasera onorevole. No, non è Bersani, no, poi? Non lo so. Poi chi c'è? Grandi protagonisti. Sì, uno che sarà, non lo puoi conoscere, uno che sarà tra i grandi protagonisti, uno che ha molti soldi, tantissimi soldi, tantissimi soldi. No, bisogna andare nel campo del centrodestra, allora forse. Beh, perché nel centrosinistra non c'hanno i soldi, scusa. Ma non lo conosci, una persona molto conosciuta però nel Modenese, molto vicino a Berlusconi. Un grande personaggio che vuole presentare con una sua lista, no? Uno che sarà, ho detto, un grande personaggio, vuole presentare una sua lista che si chiama Moderati in Rivoluzione. Come si chiama? Moderati in Rivoluzione. Io ho un appunto da fare. Moderati in Rivoluzione? Moderati in Rivoluzione. Lui è un avvocato, non solo avvocato naturalmente, si chiama Gian Piero Samori. Buonasera. Ecco. Evviva! Come sta? Moderati. Molto bene, grazie. Moderati, allora, avvocato, innanzitutto ci dica una cosa. Lei ha scelto questo nome... Ma come? Perché così? Ma è veramente così ricco, avvocato? Scusi. Ma no, assolutamente. Ma come no? Quant'è la sua dichiarazione dei redditi? Forza, su, su, su, su. L'ultima IRP, l'ultima dichiarazione. Quant'è? Se ne vuoi fare politica... 3 milioni di euro. Beh, insomma... amico, se la dichiarazione dei redditi è 3 milioni di euro, il patrimonio sarà almeno di una cinquantina, di una sessantina. No, perché spendo molto... Quanto spende? In cosa? In cosa spende, avvocato? Tutto, per i parenti, gli amici, per me. Noi siamo amici, no? Sì, diventeremo. Sì. Lei allora assomiglia un po' a Berlusconi. Sì, diventeremo amici. Noi siamo molto contenti. Avvocato Savorini, allora, visto che siamo amici, le faccio subito una domanda. Lei, che rappresenta il futuro di questo paese, che cosa intende fare per portare l'Italia fuori dalla crisi? No. Sì, guarda, meravigliosa questa. Questa è buona. Avvocato, però... Minuti ho per spiegarmi. No, al di là di questa cosa qua, lei è, come si può dire, avvocato, docente, è stato banchiere a Modena, è stato anche uno dei fondatori dei circoli di Dell'Utri, diciamolo tutti. No. Sì, è stato vice di Dell'Utri. Vicepresidente nazionale. Beh, io non andrei a dirlo in giro, però, questo, francamente. No, perché non dirlo vuol dire una bugia. Ma scusi... Orgoglioso dell'amicizia con Dell'Utri, vabbè, giusto. No, questa è un'altra cosa, non sono né orgoglioso né orgoglioso, è un dato di fatto. Beh, come non è, stato già... vicepresidente dei circoli... Sta rinnegando Dell'Utri adesso, lei. No, assolutamente. Lei è passato da un argomento all'altro. Beh, noi lo facciamo sempre, di solito. Ah, lo so. Lo facciamo sempre. Moderati italiani in rivoluzione. Ma che, perché moderati in rivoluzione? Una cosa un po' involuta. Cioè, è un ossimoro, per dire che... Non si capisce, però. Noi siamo esperti di comunicazione. Ma è molto semplice. Per cambiare... Sì? Il sistema, salvando il nostro sistema capitalistico, bisogna rivoluzionare completamente la situazione di oggi. Poi oggi proteggiamo. Sì. E dunque tutti moderati. Parassitari. Sì, questo è vero. Tutte le istituzioni, tutti che non operi in concorrenza, non proteggiamo né le imprese, né i lavoratori, né i consumatori. Penso siamo intelligenti. Moderati in rivoluzione. Ma c'è già un simbolo? Come no, certamente. Tutto, ma Berlusconi lo sa? Certo che lo sa. In accordo con lui l'ha fatto. È d'accordo Berlusconi? Non è d'accordo, lo sa. Lo sa e sostiene questa cosa, diciamo. No, non so se la sostiene. Vabbè, ma adesso non sia ermetico, non ci sia così ermetico, avvocato. No, ma non lo so se lo sostiene. Sa che è il presidente che è molto ermetico. So quello che voglio fare io. Lei vuole guidare il paese? Lei vuole guidare il paese? Io conosco un'unica categoria di persone che non vorrebbe guidare il paese. Cioè? I bugiardi. Ah, lei vuole guidare, cioè si propone come presidente del consiglio? Addirittura. No, ma guarda, noi stiamo parlando. Perché uno si deve vergognare? No, perché io non sto dicendo niente. No, ma anch'io voglio diventare direttore di Rai 1. E poi uno si adegua. Anch'io posso avere. Però magari noi non lo sappiamo e rimpiangeremo questa nostra ironia, Parenzo. Sì. Perché magari abbiamo intervistato uno che diventerà presidente del consiglio e magari ci darà favolose interviste nel futuro e noi invece ci comportiamo male. Sicuro. Magari prendiamo in giro questa cosa qua, ma no, ma figuriamoci, presidente del consiglio, no? Sì. Ma guarda che nella vita bisogna avere grandi ambizioni e poi essere disposto a subire grandi delusioni. Ma scusi, lei veramente pensa di quanti anni ha, scusi, se mi faccio gli affari suoi? 55, no, beh, 55. Quanti ancora... matrimoni ha alle spalle? Scusi? No, uno. Uno solo, no, perché se no veniamo da un... Signor Matteoli che ce n'aveva ben 3 di matrimoni, anche no, Berlusconi. Ma e quanto è disposto a spendere per questa sua campagna elettorale? Nulla. Come, ma come nulla? Cioè 3 milioni? Perché spero senz'altro di trovare tante persone che ci credono e che mi aiutino. Vabbè, ma avrà previsto, come dire, un budget, nulla. Niente. Ma nulla, comunque, ma scusi, lei c'ha un sacco di soldi come nulla. Qualcosa investirà, qualcosa di tasca sua investirà per questo moderato in rivoluzione. Adesso, ma sicuramente non mi farò ridere dietro neanche io per primo, contribuirò per primo, ma lei sa quanti soldi ci vogliono per gestire una campagna elettorale seria? Quanti? Ma secondo me ci vogliono 20-30 milioni di euro nel minimo. Quanto? 30 milioni di euro. Ma sì, ma cioè, per vincere, per arrivare a diventare presidente del consiglio ci vogliono 30 milioni di euro? Secondo te? No, per una campagna elettorale seria, lei deve organizzare le sedi, avere le persone di supporto. E lei ce l'ha questi soldi? Manifesti. Beh, io penso di trovarli sicuramente. Ma di suo quanto ci mette? Ma i soldi miei metterò 500.000 euro. Ma che 500? Sì, sì. No, qualcosa in più, su avvocato, dai. Vabbè, farò uno sforzo, dai. Dipende come evolvono le cose. Allora, resti con noi sul Fatto Quotidiano, sul sito del Fatto, mi dicono, c'è un audio, la Zanzara intervista la madre di Fiorito, gli ascoltatori a Cruciani Carogna. Vabbè, ma gli ascoltatori a Cruciani Carogna in realtà non è vero. Ma è comunque un buon titolo questo. Carogna, mi piace, facciamo una trasmissione che si chiama Carogna. Carogna bellissimo, bello, Carogne, Carogne. Carogne è bello. Carogne. Gran titolo, Carogne. Grazie, a tra poco, amici del Fatto. A tra poco, resti dov'è con che noi. Sento rumore di forchette, di sta piatti? Sta mangiando, sono le 8 e mezzo. Sento un ristorante. Champagne, eh? Champagne. No, sono... sono a mangiare del pane carao. Ma che pane carao? È il nuovo Berlusconi in diretta con noi, milionario, l'avvocato Samori. Sì, sì, sì, nuovo benefattore della Zanzara, grazie. Grazie, grazie per il contributo, grazie per il contributo. Abbiamo già annunciato prima di questo collegamento che darà 500.000 euro l'anno per la Zanzara, per sostenere gli sforzi della Zanzara. Certo, no, ma questo è sicuro. Faccia sentire poi appena torniamo, appena torniamo in diretta, faccia sentire semplicemente lo champagne che non c'è champagne. Sì, sì, sì, sì. Nel bicchiere. Ma quale acqua? Voglio sentire il rumore che entra nella coppa di cristallo. Ho paura della glicemia. Beh, riprendiamo con la Zanzara 20:37, volata via questa sera. Volata, volata, è ma volata. Cosa mi devi segnalare? Altre notizie che arrivano dalla capitale, il movimento per il diritto all'abitare oggi. Che cos'è? Sì, scusa, no, non ho capito. Non fare il cinico. Non ho capito che cos'è. C'è il movimento per il diritto alla casa. Il movimento per il diritto alla casa. Ma cosa hanno fatto, scusa? Hanno bloccato Piazza Venezia a Roma, c'era un corteo fino al Colosseo, il traffico purtroppo è andato in tilt, c'è stato anche qualche petardo, questo è un episodio da, come dire, condannare. Però quelle persone che lottano per il diritto alla casa a fronte di migliaia di case sfitte hanno ragione, non devono, il diritto alla casa. Buttare petardi. Il diritto alla casa. Ma stanno sfilando per le strade di Roma bloccando il traffico. Vabbè, andassero a lavorare, non rompessero le balle in mezzo al traffico. Ma non hanno neanche un posto dove stare. Ma dove non devono diritto, rompere diritto alla casa? Hai capito? Ma perché, o no? Perché il movimento per il perché esiste il movimento per il diritto alla casa? Ridi anche perché tu. No, perché tu la casa ce l'hai. Io anche. Ma c'erano persone. Ci sono case sfitte. Case sfitte ci sono. E quelle case sfitte vanno assegnate. Hai capito? Poi non vanno tirati i petardi. Ci sono centinaia di case sfitte. Ma sei matto? Centinaia di persone che non hanno un tetto dove stare, sì, hanno diritto. Ma scusa, io alla casa. Metti che io ho io ho la casa sfitta. Ho una casa sfitta. E te la non verremo ci a prendere. Cioè, te la verremo non ci faccio a prendere. Nulla, non ci faccio nulla. Passo, anzi, no, sì, passano sotto casa mia questi signori, li metto dall'alto dalla mia casa sfitta e faccio Sì, questi così vengono su, giustamente, e si arrabbiano, hai capito? Perché comunque ti pare assurdo, ma è una cosa incredibile. Ci sono un sacco di case sfitte di proprietà, di gestione del pubblico. Il pubblico ha un sacco di case sfitte che non vengono assegnate. Senta, avvocato Samori, lei pensa che Berlusconi si ricandiderà, dato che l'ha sentito più volte negli ultimi tempi? Io penso che... Adesso voglio dire, si candiderà, mi sembra di sì. Sì, ma scusi, allora sarà un suo avversario, dato che lei vuole diventare presidente del Consiglio? Diciamo tendenzialmente sì. Gli consigli di ritirarsi, scusi, avvocato, lei ha 55 anni, ha 20 anni meno di Berlusconi, insomma, a un certo punto scelta, no? È una scelta sua, amica mia. Io consiglio a me, lui consiglia a lui. Ma quanta gente c'è da rottamare nel PDL, secondo lei, avvocato Samori? Faccio un po' di nomi. Ma guardi, diciamo così, che mi sembra assolutamente evidente che un rinnovamento profondo per qualità e per generazione vada fatto. Adesso non parli troppo in politichese, però ecco il rumore delle forchette. Scusi, ma è possibile, lo dice, è una logica elementare, solo che noi non capiamo. Cioè, se uno rimane 40 anni in Parlamento, impedisce a tre generazioni di esprimere una propria presenza. Questo è sbagliato. Comunque, ma bisogna cambiare anche la qualità delle persone. Bisogna forse in questo momento è molto bassa, un po' più di persone che sanno quanto costa il pane. Scusi, mi faccia sentire il rumore delle forchette. Lei è così sicuro che dall'alto dei suoi milioni di euro conosce quanto costa un piatto, un pacco di pasta, il pane? Certo, conosco tutto. Sapevo, una grande fortuna. Io sono nato molto povero e in un piccolo paese di montagna dove ho tutti i miei amici d'infanzia che continuo a frequentare. Allora, quando vado su a questo che si chiama Montese, magari uno dice, oh, ma sai, c'è un affare enorme, perché c'è quella casa che costa, la danno 80.000 euro, ma se ne prendono 85.000. Allora io faccio i conti mentalmente, dico sì, ma se uno paga l'imposta di registro poi rimette. Cioè, allora questo mi serve per tornare nella dimensione quotidiana delle cose. Scusi, avvocato, però io le chiedo una cosa. Lei davvero si vuole candidare a Presidente del Consiglio? Ma certo. Cioè, e pensa di farcela? Ma non lo so. Ma questa qua, secondo me lei non si candiderà mai a Presidente del Consiglio. Questa è la serie degli annunci con Matteoli. No, ma... Secondo lei? Ma, no, secondo ma... Magari finirà in lista nel PDL a un certo punto, questo va benissimo, però... Io faccio un mio movimento adesso, che spero di riuscire a trasformare in partito. Ma d'accordo col PDL, cioè in accordo col PDL, alla fine, o con quello che sarà? Da solo, tutti da solo si presentano. Se lei va a vedere il mio programma, per esempio la patrimoniale, è difficile essere d'accordo con col PDL, dice, no? Con la patrimoniale, certamente. Perché si sono guastati i rapporti con il signor Dell'Utri? Non si sono affatto guastati i rapporti, e i circoli sono un'esperienza che si è esaurita, e si è esaurita anche la mia relazione operativa. Va bene, grazie avvocato, buonasera, che mangia? Che c'è a cena? Scusi, a cena niente, c'è del pane carao con della bottarga. Delle alici marinate e un po' di polipo. E champagne. Quanto costa sta cenetta? Una cinquantina di euro. Penso che sarà 40 euro. 40 euro, una roba normale. Anche perché non c'è vino, che io sono astemio, quindi meno di così. Grazie. Poi sono anche magrino, in linea, cerco di tenermi. Vabbè, Berlusconi pure sta tentando di tornare. ho paura della glicemia perché sono tendenzialmente virale. Ma lei ha partecipato a qualche cena con Berlusconi? Con qualche cena elegante? Qualche cena elegante? No, non ho partecipato a cena elegante. Mai, mai. Però potrei invitare voi a una cena elegante mia. Beh, diventerebbe... Perché no? No, perché dobbiamo continuare a fare il nostro mestiere, dobbiamo stare distanti dalla politica per poterla raccontare. Non ho mica detto come sarebbe la cena, vi inviterei volentieri a casa mia Modena ad una cena elegante. La cena elegante a Modena può essere interessante. Vabbè, comunque, esatto. Noi poi non raccontiamo mai nulla. Poi dopo. Ingrifato, signor Cruciani. Grazie, avvocato. Andiamo. Non è finita, cari signori della Zanzara. Siamo qui a combattere. E Gino, ricordatevi che va fermato il declino. Fermare il declino. Ma questo che stai facendo? Lo slogan non di Giannino. Gino da Vicenza, buonasera. Gino? Sì, ciao. Dica, c'è il mitico Angelo con noi, Angelo della provincia di Bari. Angelo, come stai? Chi è Angelo? Buonasera, Crucià, buonasera. Sono incazzato, Crucià, sono 15 giorni che non vado a casa. Che è successo? Scusa, personaggio bassissimo. Il titolare mio non mi vuole mandare a casa, il titolare. Devi fare un appello tu al signor Zampieri, manda Angelo Fiorentino a casa. Che sono 15 giorni che non vedi i bambini. Ma chi è sto rompibale? È un camionista incazzato nero. Ma perché sei solidale con quelli delle case e non sei solidale ma con non i camionisti? Lo so, è di una volgare. Dico qualcosa a apparenza. Faccio per qua Murt. Trattami bene, se no... Allora, Crucia, ti volevo dire. Ma perché questo qui è di un qualunquista? Mi sta sulle. Questo qui è un qualunquista. Ma che cioè, ma state zitta. Dice. La puttana vecchia. Non sai, quando un gruppo di puttane si inconda. Là potresti andare tu, mezzo a quello. Ma lei è una persona schifosamente volgare. Non ha contenuti. È populista. Che fai il comunista. I soldi che sei buono solo ad allisciare quando viene briato il signor briatore. Boom, abbasci la puttana. Ha fatto metto gul. Lei è una persona schifosa. Senti, proprio. Veramente una brutta persona. Rimanga lì, sull'autostrada. Rimanga a dormire in quel camion. Questo lo dico che sono una brutta persona. Mamma mia, una persona di ma che ragionamento propone? Che ragionamento politico fa? Lei è un qualunquista. I ragionamenti che propongono Mattioli. Io ti do una cosa a te, tu mi dai una cosa a me. Mattioli, ti spiego cosa c'è. No, allora, intanto mi dia di lei perché mai andremo a cena insieme. Tu che ti devo dare delle mamango ti vedo, ti ho detto ieri. Mi dia di lei. Porti rispetto e si vergogna. Mi dia di lei. Tu lo dici proprio il simbolo dei servi, innanzitutto della Lecchina. No. Lo so che a volte lo fai, ha ragione Cruciani, a volte chi? Lo fai per ridere, parla? Ma tante volte lo fai veramente. Ma lo con fai. Chi sta parlando? Io non l'ascolto, per me è niente, non esiste. Per me questo momento di trasmissione non è mai andato in onda. Lei non c'è, lei parla da solo. Lei è uno che parla da solo, si chiama soliloquio. Vai a comprare il formaggio di 50 euro e poi parla dei lavoratori della Sardegna. Bravo, bravo. bravo, che Angelo. Che c'entra? Sì, sì. Avevo sì, della gente sì, perché tu sei, come diciamo a bar, la 5 euro falsa. Siccome la 5 euro falsa, tu che parli di lavoratori, certo, che non possono mangiare, certo, e mentre parli dei lavoratori, certo, stai sorseggiando champagne, ma che champagne e formaggio di prima scelta. Ma non dica stupidaggini. E qui metti le mani sul volante invece di dire stupidaggini. Ormai ti conoscono tutti. Vedi ieri quello, come si chiama, Fiore, l'ha detto. Tu fai il coso, razzismo al contrario. Quello aveva ragione, quello. Lei, anche se io non la penso come Angelo, quello. Angelo, un attimo solo. Facciamo un appello perché torni a casa dopo due settimane. Ma lascialo lì. Fammi l'appello. Al signor Zampieri. Zampieri, riporti a casa Angelo dalla provincia di Bari, che deve rivedere i figli. Signor Zampieri, chissà quanti soldi prende ma lei? Ma prendo, lo muerto tu prendo, ma non mi fare ingazzare stasera. Testa da chiglioni, io prendo 1800 euro, 15 giorni buttato fuori, ne consumo 900, 500 d'affitto e un altro 400 di bollette. Lo chiglione porto a casa. E che c'entro io? Glielo dica al suo datore di lavoro, che ne so io. E allora che cazzo mi domandi a fare? Quanti soldi? L'hai detto prima di quanti soldi? Sì, sempre lì. Tu sei come la polizia quando ti ferma e dice fammi vedere la busta paga. Oh, 2600 euro, tu guadagni di più di me. Tu paro da palla, ne consumo 1800 fuori, grazie o cazzo. Traffico, torniamo subito. Non mi fa diventare volgare. Perché ha parlato la Royal School of London. Tu che mi ci porti. Tu sei come una piccola zanzara che l'estate mi tortura, mi rende isterico. Beh, avevamo in scaletta anche il mitico organizzatore della festa della merda qui a Roma, dove ha partecipato giusto per alzare il livello, certo, il presidente della commissione cultura della regione Lazio. Mi fai finire le frasi prima di intrometterti? E che facciamo? 49, 54, 5 minuti? Facciamo un'anticipazione magari, no? Gino da Vicenza, sempre Angelo dalla provincia di Bari, abbiamo già fatto l'appello per farlo tornare a casa al suo datore di lavoro. Gino da Vicenza, Gino, sì, nonostante ciao. Parenzo si opponga, Gino. Ciao Parenzo. Vada, Gino. Ciao Gino. Allora, ascoltami, niente, io prima ero ad ascoltarti in macchina con la radio, quando hai avuto quella discussione con quella signora che ti diceva che praticamente tu te la prendevi con le persone che guadagni e tu hai detto io guadagno senza fare un cazzo. Sì, ma era uno scherzo naturalmente, no? Ho capito, però io dico, siccome la tua trasmissione è ascoltata anche dai miei cari figlioli, e come me, e diciamo tanti bambini ascoltano la tua trasmissione perché i bambini non ascoltano questa trasmissione, cioè i bambini no, i ragazzi l'ascoltano, per fortuna tanti ragazzi l'ascoltano, sì. Ecco, per fortuna, però secondo me non è bello, cioè fargli ascoltare cazzo questo e quest'altro, o tipo come prima Angelo fattilo mettere, cioè io secondo me ci vorrebbe un po' più di meno volgarità, no? Perché oggi già abbiamo tanti problemi con i ragazzi. Ma questo è uno spazio scuola. Libero dove lei nella vita ogni tanto le scappa qualche parolaccia o no? O no? Beh, io a casa le scappa o no? Davanti, a casa è un altro discorso. A casa è un altro discorso. Lei nella vita normale le scappa qualche parolaccia o no? Ma ogni mai tanto. Davanti, io lavoro in una scuola. Vabbè, mai davanti ai bambini, io non è che ho di fronte un bambino qua, ho di fronte delle persone, capito, la maggior parte delle volte che delle persone. Ascoltano bambini, ho capito, mi dispiace, bambini, infatti ragazzi. Noi avvertiamo ogni tanto che questo qua è un programma dove certamente bisogna stare accorti. Poi l'altra cosa che vorrei farti notare è questa, la gente è stanca, non ce la fa più, sta scoppiando. Io lavoro praticamente in una scuola, ogni giorno arrivano genitori in cui dicono non possiamo pagare il buono mensa, non possiamo pagare più il pullman, non possiamo comprare l'astuccio, allora io dico e che devo fare io? Io faccio un'altra trasmissione, niente, non mi occupo di questa roba. Io non dico te Parenzo, io dico italiani, svegliatevi, invece di mettervi in fila per italiani, l'iPhone 5 ma fa funzionare l'economia quella roba lì, non consumo, è ma che dice, allora, che dice? Un attimo solo, abbiamo il mitico Paolo Pazzaglia con noi. Paolo, dove sei? Ciao, sono qua. Dove sei? Va, tutto bene? Urlate, perché urlate? A Bologna, dove sei? A Bologna? Sì, a Bologna, Ma scusa, bellissimo tempo. Dalla festa che hai fatto a Roma, a Bologna? Dalla festa, sì, perché Bologna è bellissima, è più sana. Ma dimmi la verità, la prossima festa, il tema qual era la festa? Il titolo ufficiale, qual era? Siamo nella merda. Siamo nella merda. Ma era finta o vera quella che c'era? Tutta vera. Ma che vera. Ma che vera. Ma c'era una puzza pazzesca allora? Sì, era pieno di puzza, ma è giusto così, no? Ma davvero stai dicendo che... Io non lo so, perché non sono avvezzo a queste feste. C'era davvero della merda vera? Ma molti non sono avvezzi, difatti alcuni sono tornati indietro. Scusami un attimo, il presidente della commissione... No, ma questo è interessante, però quanto hai speso per questa festa? In feci, diciamo. Ma chi c'è in diretta con voi? Ma nessuno adesso, nessuno. Purtroppo siamo anche in conclusione, per cui... Quanto ha speso in feci? Ma tu domani torni a Roma? No, torno a Roma lunedì. Ma il presidente della commissione cultura della Regione Lazio, era un'imbucata per davvero? Ti giuro che non la conosco, non so chi sia, non so chi l'abbia invitata. Perché tu i politici non li vuoi mai invitare, no? Non è che non li voglio, preferirei evitare. Non ho niente da spartire, non ci lavoro con i politici, non ho una corrente politica, caro mio, cosa ci si faccia fare con loro? No, eppure là tutta l'attenzione, se non ci fosse stato il caso della Cappellaro magari non ti si filavano, grande pubblicità a casa tua, pure come fai a avere... Quindi una... hanno associato la Cappellaro alla merda allora? Beh, no. Guarda che lei si è associata da sola, è stata proprio una festa di merda, ci ha detto a noi, lo sai? La festa del merda o la festa della merda? No, la festa del merda, ci ha detto a noi l'altro giorno. Peccato, perché c'è rimasta? Poteva andare via, quando ha visto anche le Iene poteva scappare. Ma tu le Iene le hai invitate apposta, dimmi la verità. Ti giuro su quello che vuoi che non le invitate, manco lo sapevo. In più ho chiesto gentilmente al ragazzo, che non so come si chiami, con i capelli bianchi, di venire a salire dopo le 11:30. È Lucci. Stato gentilissimo, molto gentile. Arrivato Lucci. Grande Lucci, domani voglio mettere un ma sacco. Ma oltretutto, scusa, le Iene non è più in onda, no, mi pare? Ma no, andranno in onda fra poco e stanno raccogliendo materiale. Ah, ok. Ma il prossimo tema quale sarà? La prossima festa a tema? Ma la fai ogni anno la festa? Ah, vuoi sapere il prossimo tema? L'abbiamo già comunque. Qual è? Gli impiccati. Cioè cosa fai? Che tutti i manichini impiccati? Questo non te lo posso dire, è furbo. Paolo Pazzaglia, un grande playboy, tra l'altro, conosciuto anche come grande... Quanti anni hai, Paolo, scusa? 75. Ma come fai a avere questa casa davanti a Palazzo Chigi? Quanti soldi hai pure te? Un po' di soldi, ma io li ho fatti senza politici, per quello li ho ancora, hai capito? Come li hai fatti? Li ho fatti, li ho lavorato da quando avevo 20 anni. Una casa di fronte a Palazzo Chigi, un posto meraviglioso. Inestimabile, valore inestimabile. Mi piace anche perché da lì controllo, no? Controlli, ma chi controlla? Controllo chi non voglio vedere. La festa della merda diventata famosa per le Iene, per la Cappellaro, ne parleremo anche domani perché ti pizzichiamo per telefono. Un abbraccio, ciao Paolo. Ciao. Buon lavoro ragazzi, ciao. A domani, torniamo alle 18:30. Sicuro? Ciao. Partecipo quella povera signora che ce la metteva tutta per civilizzarsi. Non c'è niente da fare. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Non vi reggo più.